sono vita qui, sono stato uno dei primi che ha conosciuto Salvatore in radio e di persona. Però gli investimenti che ha fatto per me, io le avevo già detto, sono sbagliati per i momenti che erano. Cambiando discorso, ma Mario Marcel che fine ha fatto? Perché non vorrei averlo visto in ospedale, mi sembrava lui, non mi sono avvicinato, una persona grassa, ingrassata in un modo pazzesco, messo male in ospedale, però non mi sono avvicinato, ho avuto vergogna, Mario non era lui quando c'era mio padre, e niente, ne sa, che non l'ho più sentito da parecchio tempo. Assolutamente no, io non ho mai più visto nessuno, l'ho visto qualche volta quando ero in via Pascoli, il passaggio è già era abbastanza grasso, poi non so che fine abbia fatto, non so se alle radio, ci eravamo anche mezzo attaccati per quando è andato via Salvatore, perché praticamente io dovevo prendere tutto, invece mi si è messo in mezzo e mi aveva portato via qualche cosa. Poi per fare che cosa? Per bruciarlo, capito? Perché l'ha bruciato. Perché l'ha bruciato. E quindi, se si tessono a togli oppure, l'ha bruciato, capito? Perciò c'eravamo anche un po' mezzo attaccati, dicendo che tutto io, che ero qui, che ero là. Io non mi serviva quel periodo, infatti non l'avevo ricomprato perché lo stavo cercando. Dove c'ho il bibanda, c'ho il portatile, c'ho il lineare del VHF, anche c'ho anche il tuo, va benissimo, è quello, roba con 10 watt, con 271 della ICOM, con 10 watt in modo laterale, metti da fuori 200 tondi tondi. Ha provato io? Sì. Va bene, così dai, sono contento, almeno tu lo usi, visto che è da fermo. Sì, 200 watt in VHF, tondi. Con 10 watt di, perché la radio c'ho io, 25 watt, io ne ho due, 74 non lo uso in banda laterale, lo uso solo in 10 metri e in VHF. C'ho proprio la direttiva dei 10 e l'antenna delle V, e quello dei 50 mega che adesso metto l'antenna. E c'ho questo 271 della Icon che è fenomenale, me l'aveva fatto avere Luca. È sempre quello tuo Luca, se stai ascoltando, sempre quello che mi hai fatto avere tu da quel tuo amico. Quel cambio avevamo fatto, se ti ricordi. Ed è fenomenale, eccezionale, proprio una schiacciata, c'è la Doni, si è inserita, solo c'ha 25 watt in banda laterale, 25 watt, 25 sto dicendo, 40 watt ne farei che c'è in banda laterale, ha la stessa potenza delle VHF, è normale perché è un monobanda, è un VHF e monobanda con le bande laterali, capito? Allora gli ho scommessi, abbassa la potenza, davvero, 40 watt. Ho messo a 10 watt col wattmetro ben preciso, è collegato all'amplificatore da 200 watt, e quello in FM da 100 watt, il bando laterale da 200, lì da tutti, tutti uno schiaffettato, passo il bando laterale e anche l'altro giorno era in direttiva con Coso, con Riccardo, che praticamente della zona lì vicino alla Liguria, con l'antenna così puntata verso lui normale, mi ha attenuato, gli arrivavo 9.10 mi pare attenuato, poi ho inserito e sono passato a 9.30. Quindi un bel giocattolino, dai. C'aveva Salvatore che me l'aveva detto a me, tenerlo, io l'avevo tenuto per diversi mesi di conservare, l'ho detto tenerlo, l'ho usato, ma io non ne ho mai usato. Quel bel finalone a valvole, il Jumbo aristocratico, quello c'aveva ancora un 500 watt, 600 watt. Non so che fine abbia fatto quello lì, perché poi mi ha detto ridammelo, io glielo tenevo conservato qua perché lui in officina non poteva tenerlo. Sì, ce lo conosco. Sì, l'avevo provato anch'io, ma quando poi, anche quello c'è Mario Mas, credo, non lo so, l'avevo fatto a lui. Quando poi lui doveva andare via e io si era messo a quello con Gigi e aveva un po' diviso le cose, ti ripeto. E io c'ho il bibanda, un portatile, amplificatorino della Bias, lo stesso 50 watt con il VHF. e qualche cosa, insomma, c'avevo il diavolo rosso lo stesso, con il microfono mi ha fatto, lui l'ha volato lo stesso a Mario Massa, insomma qualche cosettina me l'ha volata. Mi dispiace che non l'ho preso io col 440, perché tra l'altro l'avevo comprato io, gliel'avevo fatto avere io, era nuovo, capito? Nuovo, proprio usato pochissimo, l'avevo fatto avere io. E invece aveva preso Mario, poi so che aveva avuto problemi, l'aveva bruciato. No, io mi sono messo in mezzo proprio per evitare i problemi, perché mi ha detto te prendi tutto quanto, prendi tu, poi vediamo cosa fare, addirittura me la voleva regalare, Roberto, no, sono fatto lascia perdere. Poi alla fine quando è partito mi ha detto vai ritiratene quella roba, e mi ha tirato giù l'antenna sua, la Mantova che è nuova, la Mantova Turbo, poi c'ho quell'antenna 5 bande che non era mai stata piazzata, poi cos'è che mi ha dato un po' di cavo che trovo attaccato a te qualche pezzo di cavo, e poi cos'è che mi aveva dato. Stavo cercando l'antenna per le V e le U che non siamo riusciti a trovarla, che lui ha detto che c'è per forza, e poi cosa mi ha dato? Ah, prima di partire mi ha regalato quella piccolino alla 48 Plus, nuovo, quello fiammante, col suo microfonino e con l'antenna che ti avevo dato, quella verità, quella che c'è nel campo, quello lì me l'ha regalata, ma guarda, è stato generoso. Poi c'aveva altra roba, gli ho detto lascia il bisogno me ne dare, e poi se l'ha portata via. Va bene. No, per quello già non c'erano problemi, io andavo molto d'accordo, ci passavo spesso, quando avevo i mezzi di trasporto, i ritiri, quando mi chiamava a casa, a volte facevo la zona di nuvolo, quindi entravo a Macomera a ritirare le materiali, glielo portavo, non gli ho mai fatto pagare niente, e quindi insomma, i buoni signori a tutti. Mi è dispiaciuto quello che è successo, tutto il casino che è successo, secondo me si poteva tranquillamente evitare, però cosa vuoi dire? Purtroppo con le famiglie ci sono problemi tra persone che non sanno ragionare alla fin fine, poi ci si è sempre patatrato. Quando mi sono di 9 mesi, finché c'era il padre che gestiva tutto, era tutto tranquillo da poi, si è già spostato tutto con i cattivi consigli, scelte sbagliate, cose che non doveva fare, che ha fatto, vabbè. Diciamo, meno male, adesso si è messo a posto, è andato fuori, dice che sta molto, molto meglio, nel senso meno preoccupazioni, anche se le manca tanto qua di derumare gli amici che c'aveva qua. Diciamo, ha mollato tutto lui proprio per evitare le cose più gravi che potevano succedere. Vabbè, dai, cambiamo discorso, vediamo se c'è ancora Luca, avanti Luca. Non c'è, vabbè. Poi mi aveva anche quella della tarte, quella per la 27, la direttiva, che te l'avevi messa tu. Ah, quella che abbiamo modificato con Marco per i 10 metri, è favolosa quella tarte. Favolosa, le ho approfittato che mi si era avuto un problema, mi si è staccata la fascetta, adesso gli ho messo un patinetto di fascette belle e grosse, e girando mi si è rotolato tutto il capo al rotore, mi ha strappato piele, tutto, infatti non c'avevo più ricezione, qualcosa è successo al 200, l'ho durato, abbiamo tolto tutto, pulito, fatto, messo tutte le onde, non male, e ho agganciato l'altro capo, avevo 213 prima lì, ho agganciato l'H510, la ricezione, trasmissione, una bomba pronta, infatti non conto, lasciala stare quella lì e fare le comparazioni prima della risposta, perché quella è una monobanda per i 10 metri, quella adesso per i 10 metri, faccio dei risultati eccezionali, l'altro giorno ho fatto Santiago del Cile, gli ha dato senza amplificatore, io ho fatto l'amplificatore per i 10, ma ha dato segnale 9, ma la preparazione non era neanche molto buona, segnale 9 tutto con il watt del 7004, poco più di 100 watt, è veramente ottima, infatti non ho detto lasciala stare, più fare comparazioni con la monobanda e con la tribanda, a vedere come senti la differenza, perché quella lì ha detto con le bobine, questa è senza bobine, poi monobanda, vedrai i risultati, che la differenza che hai, adesso vediamo, nell'ultimo atto, non dire un bel lavoretto, tanto perché l'oggetto è tipo quello già fabbrito, quindi scatolato, col pericello, quindi lo posso abbassare, c'è l'altro lo scatto ogni volta di salire su, mollare i dadi, abbassare il telescopico, invece qua non sale neanche, abbassi la porta a testa d'uomo, se devi fare lavori e poi tiri su. Capito? Muy bien, muy bien. Chiamato ti hanno, no? Chiamato? Ti hanno chiamato per la cena, no? Sto aspettando adesso, già mi chiamerà. Anche l'altra, anche se quella mia, quella proprio mia personale che ho dato a te, l'ultima, quella è molto migliore come qualità, come costruzione, c'è la HPL, è bella, è fatta diversamente, c'ha il ponticello mobile, diciamo la può accordare meglio quella lì. Quella lì per quanto la metti, per i sementi? No, per i sementi ce l'ho già, ho una 4 elementi, quella c'è tu una 3 elementi. Quella che c'è tu, Marco, adesso deve vedere perché c'ho dell'altro alluminio che vuole allungarlo praticamente. Adesso lo voglio vedere quando è molto probabilmente fa una monobanda per i 20. Una monobanda per i 20 facciamo. Quindi tutte antenne fatte in casa che però da quassù danno degli ottimi risultati. Va bene, va bene. Ma Marco poi già sei preparato da quel punto di vista, ti darà sempre consigli giusti, poi c'è programmi da computer, ma anche a me un programma, un calcolo di un'antenna che poi alla fine me la sono comprata, quella militare, ti ricordi quella verde che avevo acquistato, e lui mi ha dato tutto il programmino, già stampato con tutti i valori, accordata su quella frequenza, no, Marco poi quando gli chiedi qualcosa si trova un calcolo, già un amico. Poi con me ci conosciamo la vita. Infatti mi ha detto tocca sbloccando, sono ancora italiano eccetera, se no già fa tutto finito, perché quella dei 10 me l'ha fatta tutta lui, messa a terra, tutta misurata, l'ha fatta, c'ha da 28 a 28 e 800 c'ha 0 stazionati, pure uso anche il 27, figurati, io lo sai, sto scendendo con quella, perché il cavo della moto va sganciato, attaccato su questa antenna, perciò sto usando quella lì, sempre a nord, vado a tutte le parti, e anche qua a watt metterò lo stesso, c'è proprio uno rapporto a uno, ma sei sceso dai 27 al 28, quindi chiaro si sposta leggermente, ma c'è una ricezione favolosa, perfetta, e l'altra invece è quella che c'aveva Antonio e Bio, Antonio Monteoro, la 4 elementi per i 6 metri, lui ha messo la, una, non so che 4 elementi sia, mi piace, 6 elementi, 5 elementi, non so, e l'altra la tamma, e quindi ho recuperato anche quella dei 6 metri. Poi c'ho l'altra, è nato tu, sempre per la 27, quella lì che è più grande, 3 elementi, quella lì, adesso vediamo cosa fare, e Marco. Poi ho recuperato una lo stesso per elementi, 10, 15 e 20, bobinata però, dell'eco antenne a bobine, quella a bobine, e quella va sopra questo traliccio, ci va quella lì, e quella dei 6 metri, e l'altra dei 10 la lascio stare, che faccio la comparazione, ma mi interessa, mentre metri per i 40 uso la filare che è un mostro, 40 metri no, non ce n'è. In 40 è fenomenale quella che c'ho io, ma è quella di Marco, che girava al mondo, lui è proiezione orizzontale, quindi da quassù schicchia forte, quindi in 40 metri e dei segnali allucinanti, pazzeschi, tutti propagazione o propagazione, da 9.20 a 9.30, poi una sua propagazione sono tutte a fondo scala, 9.40, 9.60. E quando chiamo, alla grande, sempre 9.20, 9.15, 9.20, ma tieni conto con 100 watt, 120 watt, quindi, ma almeno 9.20 non mi danno mai, va benissimo, quello che ho detto Antonio, ti bastano affidare, posizione buona, intanto inizi a cammellare, ma se ne viene a gana, non viene a gana. Ma chi è adesso il top qua di trazione, parliamo radioamatoriale qua a Sassari, come livello di antenne, le antenne più performanti, Marco o Walter? Marco lì va via, Marco lì va via, adesso fa un po' inizia a sbaraccare tutto, va via e credo che vada a abitare la zona di San Giorgio, cosa singola lo stesso, quindi di mettere a tutti i tradici nuovi, eccetera. Ma è che lui che sia, il top del top è sempre lui. È sempre lui, diabolico, capite? Poi se esce con. Non lo potete vedere radio, ma arriva la pera l'andriga, solo che lui usa 5 kg, vatti quindi. Scappa. Perché se ne sta andando? Ma non è una casa sua quella. Vabbè, ma no. Aspetta di con verticale, sennò quando passa fatto vedere a lui, no. Non c'è feeling, non so, lo sta uccidendo, sempre vedendo cosa c'è lì, ha fatto centenne, per chiavi, punta e poi per allora si è rotto e se ne va. Va bene. Poi chi c'è oltre loro due qua in zona di radioamatori che hanno belle antenne? Sicuramente come di mentre Fabrizio c'è un ottimo impianto, va benissimo, ottimo radio, ottimo impianto, quindi Fabrizio si è inserito subito e ha fatto bene, non interessare altri, non credo, insomma, non so. Io non sto più facendo grandi cose, io voglio fare il mio, stare al mio posto come sono sempre stato, dove posso competere competo, dove non posso competere sto in ascolto, per il resto fino adesso dove mi dicono di spostarmi mi sposto e mi ascoltano tutti. Di un Giulio diceva l'importante è arrivare, poi quando non arriva vuol dire che esce bene, quando non arriva vuol dire che è un casino. Aspetterete. Rientrato, vedo che siete ancora qua. Ma sai, me lo stiamo attaccando, ma Claudio ha telefonato. Vabbè, dai, sentiamo un'altra volta, io sto tornando a casa tanto, ciao. Claudio, adesso la telefono. Sono rientrato, c'è qualcuno? Sì, stavo facendo una prova che ho toccato il guadagno microfonico, è cambiato qualcosa da poco fa. Oh, sempre con quello lì, solo che stavo toccando il volume, ho toccato il microfono, probabilmente è troppo alto. Avete il bello microfonico, è buono, non stai saturando, bella comprensibile la voce, forse è migliorato. Vabbè, allora a due lo devo lasciare per saperlo, dai. No, la voce è chiara, bella piena, qualcosa. Vediamo se c'è qualcuno. Fabri, ma senti qualcuno tu, lontana? Io sento gente sottofondo, adesso non so se c'erano quelli di prima che stavano chiamando. Senti qualcuno tu? Per provare a chiamare. Hola, attenzione al canale 3. Attenzione al canale 3. Forse sì, c'è lo switch, però non lo so. Faccio adesso qualche temporale perché sento qualche scarica in lontananza, tipo qualche scarica di full. Tanto il tempo è quello che è. Ascolta, ma questo cosa volevo chiedere, questo microfono Shure, come cavolo è, lo chiedere a Claudio. Montalo su questo, sul capo. No, a sapere che tipo di microfono era. No, ottimo microfono. Diciamo, per certi versi, su certi tipi di apparati, parliamo di livelli di baracchini, di apparati CB, per certi versi può essere meglio del TAN, per certi tipi di apparati, perché avevamo fatto le prove, c'era Natalino, anche Gianni, doppio rumor, su Saturneco, per certi versi andava anche meglio del TAN, però dipende anche dalla tonalità vocale della persona. È un buon microfono, non l'ho mai avuto, però l'ho sentito, ti posso dire, è paragonabile al TAN come microfono. Stiamo parlando da tavolo. Sì, da tavolo, quello ce l'ho in vendita. Ce l'hai tu o lo devi prendere? No, vuol dire avere un altro microfono, se potevo collegarlo, vediamo un po'. No, qualitativamente è un ottimo microfono, almeno se è tutto originale, poi la Shure è specialista, già lo sa meno di me, il microfono. Io ho uno Shure però professionale, da voce, da spettacolare come prestazione, però anche quelli microfoni per CB ho visto che vanno più che bene, sono paragonabili ai Tanner, come leggermente, i Tanner hanno una modulazione leggermente più tendente all'acuto, questo qua invece è un po' tendente alle frequenze un po' più basse, però dipende dagli apparati, ho visto che su certi apparati era anche un peluzzino meglio del Tanner, in altri magari lo superava il Tanner. Ho capito. Vabbè, sono riuscito comunque a collegare l'altoparlante supplementare, mi fa, aspetta che lo scollego, mi fa un macello incredibile. E non te potevo stare attento, magari. se ti hanno dei problemi in interni, non lo so, l'impedenza è pure, non so, magari che cambiano gli altoparlanti, l'apparato non lo so, non è compatibile con l'uscita lì, può avere tante cose. Già non c'è bisogno di spiegare tu, già le sai tu Fabri. Dimmi una cosa, ma di quel problema del mio apparato, del 44, c'è qualche idea tu di cosa può essere successo, Fabri? Mi hai sentito, Fabri? Allora, cosa può essere successo? È solo un problema di... sta succedendo una cosa, praticamente a freddo non... cosa succede? A freddo si scollega il PLL, è quello, si scollega a freddo. Sì, c'è qualche componente che a freddo sta andando in perdita. Bisogna capire cosa, su quelle, tanto bisogna capire prima di tutto se lo fa su tutte e quattro le bande, su tutte le bande, bisogna capire, c'ha quattro punti lui se non sbaglio, su tutti i quattro oscillatori, e da lì si riesce a capire quale può essere, dove può essere il problema. No, non lo fa su tutte le bande, addirittura appena lo accendo, se vedete vado in banda delle HF basse giù, funziona tranquillo, non l'ho provato in trasmissione, però di certo ne funziona. Poi comincia a salire dai 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz a salire, e di lì piano piano si stabilizza, cioè a salire, però appena si vede accendo subito sulla 27 non parte, rimane tipo muto, si abbassa anche il livello di segnale, e poi piano piano si stabilizza, dopo qualche minuto si stabilizza. Addirittura prima non appariva niente, dovevi dargli i colpi di accensione e spegnere dell'interruttore, un paio di colpi per dargli la potenza. Non riesco a capire cosa sia successo, proprio non ne ho proprio idea di quella roba lì, perché l'ha fatto piano piano decadendo così, e appena avevi messo a posto tutto, avevi fatto quelle tensioni, regolato quelle con quei trimerini, sembrava andasse, e poi di colpo tum, l'ha fatto. Poi come si stabilizza, funziona. Allora, aspetta che metto a posto un cavo, sono su rotta. Ecco qua. Allora, praticamente lì sicuramente, ecco fuori muscirino, questo muscirino, minchia quanto ha saltato, così è una pulce. Successo? Aspetta che uccido un muscirino, non fa subito poco salta, aspetta. Pucci non mi sembra che saranno tutte morte. Aspetta, pensavo, ho visto un animaletto strano, non riuscivo a capire cos'era. Allora, lì bisognerebbe andare, se te lo fa a freddo, bisogna capire, devi appena accendi, inizi, io ti do le, ti posso già, aspetta che lo cerco, ti do anche cosa devi controllare, le frequenze. Diagnosi, io adesso vabbè non l'ho più fatta, però schiacciando dei tasti in contemporanea fa tutta la diagnosi di tutto l'apparato, quando l'avevo fatto però funzionava tutto quanto, però non so se poi quello lì è indipendente dal discorso di quello che sto dicendo io. No, aspetta, programma manuali radio, aspetta che lo cerco, 440, aspetta che lo trovo adesso qua, sì, manuale, sì, adesso lo dico subito. Le frequenze, dovresti provare, c'era un pezzo di carta. Sì, la farò però. Allora, da 30 Hz a 7000, 49999. Non capito, da 30 Hz a 7000? Allora, da 30 Hz a 7000, 49999. E cosa devo fare? Cioè farlo oscillare, quella è la prima banda, così. Questo è il primo oscillatore, e devi provare qua, tu devi arrivare a 7, 4 e 9, 9, 9, quindi fai 7, 4 e 90, e a quel punto lo accendi su quella frequenza, vedi un attimino, poi ti sposti a 7500 e lo accendi e vedi se te lo fa. Questo l'ho fatto io, non lo faceva sulle bande, sulle frequenze più basse. Come salivi dopo i 15, 14, eccetera, eccetera, di lì è che come si chiama, lo faceva il problema. Infatti, come lo accendo? Io lo metto, per dire, col VPO inserito in queste bande a 7300, 7500, lo facevo apposta. Notavo anche, per dire, mettevo su quello canalizzato, mettevo, cioè le memorie di canale, mettevo 26, come per dire, questa di adesso, 19,85. Come accendo non funzionava, rimaneva tutto display spento, cioè con tutti i puntini sotto. Mettevo il VFO che era memorizzato, per dire, a 5300, per fare un esempio, e rimanevano la frequenza, appariva bene. Faccio girare il VFO manualmente, dopo che arrivavo, per dire, a 12 MHz, a 13, eccetera, eccetera, di lì si alterava di nuovo, rimanevano i puntini sotto. Il problema è nelle bande, secondo me, dopo i 15, non lo so esattamente, non l'ho calcolato, però come scala, dopo qualche minuto, per dire, puoi salire sino a 18, dopo 3 minuti sino a 20, poi dopo 5-10 minuti funziona tutto perfettamente. Sì, aspetta, sto guardando. Allora no, infatti nel manuale servizio era un errore, mi ricordavo, infatti non dico, allora il manuale è un errore, sto cercando su internet, allora la frequenza non è 14499 ma è 14999999, quella è la frequenza, anche se il manuale servizio ti dice una cosa invece è un'altra, mi ricordo che c'era questo errore, quindi praticamente tu devi fare, sì, ma devi fare queste prove, è molto importante. Allora, pezzo di carta, dove vanno gli oscillatori, cosa devi controllare, a quel punto capisci quale oscillatore sta dando problemi, perché se così si interviene su quell'oscillatore e si ricostruisce l'oscillatore solamente, si rifà tutto quanto e via, capito? Si cambia di diodi, si cambia di condensatori, tutto. E infatti bisogna individuare la zona, quanti oscillatori c'ha questa, in quante sezioni diviso, in quante bande, diciamo? Non bande, sì, oscillatori, 4 ne ha, 4. Non c'entrano niente le conversioni, non c'entra niente il discorso della conversione. No, non c'entra niente con la conversione, cioè due conversioni dovrebbe avere quello. Allora, praticamente la prima fisce, frequenza oscilla, segnati, metti, da 30, praticamente tu devi mettere da 30 Hz, kHz, da 30 kHz a 7000 a 9999. Quindi sino a lì dovresti, è il primo oscillatore, e quindi tu praticamente devi fare la prova. Da 8000, poi metti a 8000, da 8000 a 14,99999 è il secondo oscillatore. Sì, da 8000 a 14,99 l'ho già scritto. A provare mettendo queste cose qua, per capire qual è il coso, il problema, dove, in che sezione della scheda, diciamo, del gruppo di sintonia e del PLL c'è il problema. Sì, poi l'altro è, però per te mi dice qua c'è qualche errore in questo manuale, se non mi torna. Sì, vedi, infatti qua c'è questo errore, vedi. L'altro è, ecco l'errore del manual service, allora, l'altro è non come 4500 il manual service, ma è da 14,99999 a 21,9999. Ci sei? Poi l'altro è da 21,9999 a 29,9999. Ciò vuol dire che tu la prova che devi fare è questa, a freddo lo metti a 7999, mettilo un po' più basso, metti a 7950 e vedi un attimino l'accendi, se lui accende a quel punto lo fai saltare su, lo metti a 15.000, lo metti a 8000, perché qua c'era un errore nel manual service, fammelo cercare su internet, praticamente lui ti dava i limiti e invece quei limiti erano sbagliati. Vabbè, ma mi hanno detto, vabbè, sarà troppo complicato, che esiste un kit, che sanno già il problema su questo tipo di apparati, è un kit di condensatori che dice te cambiati questi condensatori e risolve il problema. Sono cose leggende metropolitane o cose vere? No, già, nel 430 c'era tutta una serie di kit per cambiare, ma non è così, ma se non ti ce ne sono. Io addirittura in questo 430 ho comprato dei kit da fuori, questo in più mi ha mandato delle schede, no? L'ho trovato, in più mi ha mandato delle schede sceneggiatori in più, detto minchia quanti erano, specificato tutti con tutta la lista, con tutti gli schemi dove sostituire praticamente tutti i condensatori. Oh, noi ho cambiato una pazzia, così ritorniamo con la pazzia, una pazzia a cambiare tutti i condensatori, lascia stare, adesso ecco le ho trovate, adesso ti do, prenditi, guarda, uno schemino e un pezzo di carta, queste sono quelle giuste. Ci sono sempre pronto, vai. Allora, tu metti praticamente l'apparecchio, lo metti a 7.4999, questa qui è il primo limite, quindi tu lo metti a 4.950, poi il primo limite è 7.4999, a questo punto accendi l'apparecchio, vedi un attimino a freddo se te lo fa, se non te lo fa, l'altro limite da 7.500 passi a 14.4999. Quelli sono i metri, quindi ti metti l'apparecchio a 14.490, lo spegni quando è freddo, lo accendi e vedi un attimino, se te lo fa, se non te lo fa vuol dire che che può essere l'altro, quello che parte da 21.999 a 29.999. Aspetta un attimino, allora c'è il primo oscillatore che va da 30 a 7.499, dopodiché il secondo oscillatore parte da 7.500 a 14.999, poi c'è il terzo da 15, dovrebbe arrivare a 21.999, e il quarto da 21, da 22 a 29.99, così. Cacchio, aspetta, mica io ti sto facendo sbagliare, ma perché anche mi sto incasinando, perché c'ho tutti e due, c'ho aperto tutte e due le pagine. Allora, riprendiamo, da 0, adesso ti do gli oscillatori, da 0 a 7.499, il primo, il secondo fa da 7.4999 a 14.9999, perché nel manual service c'è scritto 14.4, ma è sbagliato, quindi il primo 0, il primo praticamente 30, 7.4999, il secondo parte da 7.50 ovviamente, da 7.50 subito dopo, a 14.9999, l'altro ovviamente parte da 14.5 sino a 21.99999, poi da 22 a 29.9999. Ci sei ora? Io ho capito, ma il terzo oscillatore forse è sbagliato, Fabri, perché il secondo è da 7.5 a 14.999, il terzo dovrebbe partire da 15 a 21.999, tu invece mi hai detto da 14.5 a 21.999, è possibile ritorno indietro? Sì, no, forse mi sono sbagliato, adesso te lo ripeto, perché sembra così, ma io ci do, perché ci sono un paio di errori sul manuale. Allora, da 30 a 7.4999, questo è il primo, il secondo parte da 7.5 a 14.99999, l'altro parte da 15.000, quindi da 15 MHz, a 21.99999, l'ultimo parte da 22 a 29.99999. Sì, sì, come ho scritto io adesso, infatti. Se mi avevi detto prima da 14.5, infatti probabilmente hai letto male. E si fanno le prove a settudi, quindi la fanno subito l'altro, va bene, adesso non posso farlo perché è staccato completamente l'apparecchio, mi metto un altro alimentatore e vederlo. Però questo apparecchio ha sempre avuto qualche problemino, sempre un po' peggio, poi alla fine è esploso, perché l'avevo portato, l'avevo allineato, l'avevo mandato sulla Bianconi, stava andando bene per diversi anni, poi piano piano ha iniziato a creare qualche problema di accensione, accendevi, no, dava subito la portante, poi lo dovevi spegnere, dargli un paio di cose, e poi tutti i difetti si sono aumentati perché iniziava a perdere un po' di ricezione, di questi gracchiamenti in trasmissione, faceva che le stesse cose, io pensavo che fosse un problema magari di disturbi atmosferici, invece era proprio l'apparato che dava questi gracchiamenti che li faceva anche in trasmissione, e poi alla fine è decaduto. Purtroppo io sono convintissimo che c'è qualche condensatore anche in perdita per quello, perché poi piano piano come si ricarica riparte e si riallinea. Allora, io adesso l'avevo controllato il tuo, ma non me lo ricordo se gli oscillatori erano stati rifatti, io questo non me lo ricordo, non me lo ricordo, però quello che non me lo ricordo. condensatore. La prima cosa che si fa, si sostituisce il condensatore, che c'è un condensatore e un oscillatore, e si vede, perché sembrerebbe un qualcosa che stia andando in perdita, qualcosa del genere, però potrebbe essere, si spera che sia già stato, non mi ricordo se c'era la colla, però se l'hai mandato magari te l'hanno già fatta, aveva fatto Bianconi quel lavoro, lo sai, gli oscillatori te li aveva ricostruiti. No, non ha fatto niente, l'ha soltanto allineato e basta, ha fatto lavoro di allineamento e basta. Addirittura me l'aveva gliel'ho rispedito indietro, perché io quando l'avevo provato ho detto, ma questo apparecchio non funziona in FM, non è possibile, funziona tutto quanto, gli ho scritto tutto il problema, gliel'ho rispedito indietro, mi ha detto rispedissimo, ha provato, ha detto la corretta funziona perfettamente, me l'ha rispedito, controlla bene la tensione nominale eccetera eccetera, e poi alla fine c'era un alimentatore, era un po' così, non eccellente, e non dava esattamente la tensione, insomma c'è una protezione, se non gli dai quel minimo di tensione, per dire i 13,78, diciamo, se li dai per dire 12 volt non interviene la trasmissione di questi apparecchi, c'è una protezione probabilmente, e l'ho detto, però sollevavi un po' la tensione, a me mi leggeva lo strumento per dire 13 volt, invece ne stava dando 11, alla fine l'ho regolato e funzionava bene, perché ho fatto anche una mezza brutta figura, però adesso purtroppo il problema c'è e resiste, io sto usando quello che hai messo a posto tu, vedo che sta sempre andando bene questo, però mi ha detto che è un apparato molto più recente, almeno di numero seriale è molto molto più nuovo. C'è ancora il relè della scheda filtri trasparenti, capito? Quindi sono dei primi. Niente, bisogna fare quel controllo. Davanti sto controllo. In questo periodo sto ristrutturando un appartamentino per quello, quindi non sono incasinato. Sono andato sul mappo poi con due cose in testa, però quello controlleremo e vediamo gli oscillatori. Quello è il problema, quella è la prima cosa da fare. E lì comunque il problema, c'è poco da girarsi intorno. Anche perché bisogna capire, potrebbe essere anche il VCO5, anche quello potrebbe essere, perché se te lo faceva da tutte le parti, però non è nemmeno detto, però potrebbe essere quello. Bisognerebbe controllare le tensioni a freddo e vedere un attimino cosa succede, anche quello si può controllare, però comunque vedrei che qualche cosa in dispersione, più che altro potrebbe essere qualche condensatore, ma non è detto, non è detto. Il problema è che questi difetti qua sono difficili da scovare, in quel tuo caso lì magari un po' più semplice, forse perché è localizzato su un difetto vecchio del 440, quindi probabilmente lì. Mi dispiace perché anche se quello è più nuovo, quello che mi hai sistemato tu, nuovo come paghiamo età, però con l'altro come tastiera, il mio originale, quello che avevo prima, è molto migliore, come è stato d'uso è meno usurato, i tasti sono, le scritte sono più nitide eccetera eccetera, infatti a questo andate una cosa, non lo so se lo faccio, che sostituire il coso, il frontalino per dire di uno e metterlo nell'altro e poi far fuori, sistemare quello più anziano e poi vendermelo così sistemato, vale, però messo a posto, così in modo che non ti rifregate da nessuno, dico questo è l'apparecchio, non è esteticamente nuovissimo, però è stato riallineato e messo a posto, ricavarne qualcosina, poi puoi investire per prendermi qualcosa di più interessante per altre bande in futuro di patente. Sì, non ci vuole niente, le manopoline le estrai, poi smonti il UFO, lo smonti, c'è una brugola piccolina, c'è un forellino se guardi, togli quella brugola e esce fuori il manopolone, poi ci sono due viti interne al sotto quello del manopolone del UFO e le quattro viti laterali, il frontalino viene fuori, se lo sostituisci e ti metti l'altro che è più nuovo. Ah, quindi rimane la tastiera, rimane attaccata, non devo fare niente, la tastiera dove c'è scritto LSB, CW, eccetera, perché così sono un po' consumati, e per il resto va bene, i tastini sono tutti attaccati, non vogliono uscire subito, cioè tutti i tasti, quelli a pulsante, rimangono attaccati all'apparato, e rimane solo la tastierina dove ci sono i numeri e nel frontalino, così mi dici? Sì, lo sai che sono smemorando, che allora la tastiera sono sicuro, la tastiera sono altre quattro vittine, la tiri fuori, qui c'è un connettore e la puoi sostituire con uno con l'altro, è semplice, se non te togli il frontalino, la tastiera la tiri fuori molto facilmente, lo vedi, sono uno, due spinotti da scollegare, se non lo ricordo, comunque la tiri fuori velocemente, e i tastini credo che rimangano lo stesso stati attaccati alla plancia, credo. Però vabbè, non c'è problema, è semplice. Ti ho detto, per smontarla devi tirare fuori tutti quanti i tastini, quelli sono in castro, li tiri così. Poi smonti le due viti, le quattro viti laterali, poi con una chiavettina blu smonti la manopola del UFO. Quando togli fuori quella manopola, tu vedi c'è un buco lateralmente, se la guardi, dove ci sono tutti i grillati, dove tu ce la prendi con le mani, e poi ci sono due viti, smonti le due viti che ci sono di sotto, il frontalino ti viene fuori. Sì, ho visto abbastanza, senti, già per quello poi se ne vedrà male, a tempo perso, là. E basta, per il resto l'apparato fa funzionare. L'unica cosa, lo sai Fabri, che me l'hanno detto quando ho fatto dei collegamenti quest'estate, anzi l'estate a primavera, ma dalla tele mi sentivano saturo, dice come, ma mi sono ascoltato anche io, infatti non mi è piaciuta molto la modulazione, ma dalla tele non ho capito per quale motivo, le ho provate tutte, abbassare il livello microfonico, ad alzarlo, diminuire la potenza, tutto, però la modulazione era troppo compressa, non capisco per quale motivo. Confermo. Bisognerebbe, vabbè, lì è l'apparatura, bisognerebbe controllare. È semplice, una caratura bisogna controllare. Io ho fatto tutte le prove, ma andava a terra e hanno dato degli ultimi rapporti. Però adesso magari sarebbe da ricontrollare. E vabbè, non mi interessa adesso. Ciao Marco, comunque sei ritornato a casa Marco. Cappa, sto riprendendo da casa. Sono arrivato poco fa, ho trovato anche il parcheggio. Ove più tu entra il tuo segnale, capito, arriverai ancora più forte, visto che siete ancora più vicini. Vediamo, sto usando, vediamo quanti watt, 15 watt, di più quante muta, vedi un po', 1, 2, 3. Sì, quasi 9.30, c'è un ottimo segnale. Ok, Fabrizio vabbè, arriva più forte, probabilmente si sta aiutando con qualcosa. Fabrizio, stiamo parlando, riprova un attimo Fabrizio. Hola, non ne ho tanto, quanto ne sono? Sono 50, sulla scala di 50, aspetta, anzi lo sollevo perché se no va meglio sollevare. Forse va meglio così, perché ero, aspetta, basso. E così sono 15. E poi sono intorno ai 20, già va bene. Faccio 9.40 spaccato con i picchi positivi, qualcosina un po' più di 9.40. Ecco, questo è 15, 16 e gli altri va bene, così va bene per la città. Ok, dai, io vi saluto tutti che mi allontano un attimino, dai. Alle prossime, ciao Marco e ciao Roberto. Via Fabrizio, fatti sentire male, se capita, dallo stato dove lavoro e qua è frequenza, se ci coincide ci sentiamo. Ok, buon tutto, ciao Fabrizio, grazie delle informazioni, avanti Marco. Ciao Fabrizio, buon proseguimento, buona cena. Ma avanti Roberto, come mi ascolti con questo apparato? Perché ti ascolto bene, adesso ti guardo strumentalmente e ti dico qualcosa di più preciso, avanti. Ecco qua, vengo avanti, vedi un po', ripeto, 15 watt, importante muta, modulati, francamente non lo so, là, 20 e qualcosa modulati, dai. Questo è un K con un 60. 140. Ma ti ascolto bene, prova un po' la modulazione, c'hai 60 di microfono. K ci conferma. Diciamo, per essere pignoli, per appena di acuti avresti necessità, però diciamo può dipendere anche da altri fattori. Però la modulazione è chiara, pulita, non ti posso dire niente. Il segnale a livello microfonico va bene, prova a parlare un po'. Allora, modulazione AM, frequenza 26985, corrispondente credo al canale 3. Canale 3 mi pare, sì. Se non avete cambiato canale è questo, ok, vedi un po' come va. Canale 3 è questo, 26985, la frequenza giusta, il livello microfonico perfetto, niente da dire, lampeggiando il puntalino rosso, diciamo il picco di rosso, per cui sei all'interno dei valori di coso standard. E una cosa, a me ti porta al muto, sento un problemino di sottofondo, avanti un po'. Sì, 400 Hz, 1000 Hz, c'è una portantina di sotto di alternata, non so se dipende dall'alimentatore o da qualunque cosa che c'è vicino. L'alimentatore è molto vicino, Si sente la ventola, fai orecchio. È un segnalino da 400 a 1000, che va da 400 a 1000 Hz, proprio, sembra tipo un residuo alternato, però più la ventola, magari sei abbastanza vicino perché il microfono spinge parecchio, magari sta amplificando anche il disturbo. Ma la ventola di che cos'è? Dell'apparato? Allora, la ventola è dell'alimentatore, è un alimentatore Proxel da 30 A. Si accende la ventola addirittura, mamma mia, quelli Proxel sono quelli switch, mamma mia, io sinceramente non, le ho, non mi sono mai piaciuti gli switch, vanno bene per altre cose, ma come radiofrequenza ci vuole un alimentatore normale, standard, a trasformatore, possibilmente senza ventole, magari sovradimensionati, non hai problemi, perché questi switch sono molto molto delicati, ti tirano fuori un sacco di mondezza, perché sono molto critici a livello costruttivo, finché funzionano vanno tutto bene, ma in radiofrequenza non li vedo molto bene. E la controprova degli amici qua in frequenza sono rientrati ai trasformatori perché sono troppo delicati. Comunque stiamo parlando di cose impercettibili, io voglio essere pignolo, tu mi hai chiesto un parere di critico pignolo e te lo sto dando, poi per il resto va tutto bene. Ok, no, io tutti dicevano che in HF c'era disturbi forti, io anche ascoltando le altre bande non ho mai sentito nessun disturbo, ma se anche ci fosse, qua c'è la regolazione dell'oscillatore, se hai su una data frequenza un disturbo lo muovi, dovrebbe sparire, ma qua non me ne sono reso conto. Per la ventola è sempre attaccata, da quando la accendi a quando lo spegni è sempre attaccata ed è un minimo, in caso di assorbimenti extra dovrebbe aumentare i giri, dovrebbe, ma qua non è mai successo. Sì, ma lo so che c'è di questi switching, io non voglio criticare perché ci sono anche degli switching di, diciamo, di altissime prestazioni da laboratorio eccetera eccetera, però il problema di questi apparati, per farti dare i 30 A nominali, li tirano in collo il transistor, è come un amplificatore, diciamo, il principio è lo stesso, per cui se quel transistor è fatto per avere 30 A massimi, loro dicono io li faccio dare 30 A e li tiro il collo, li metto la ventola sempre fissa e basta. No, secondo me è più logico, un alimentatore da 30 A lo fa lavorare a 15 A, metà della potenza, è una necessità di ventola, è solo questo il discorso. Io questo alimentatore che sto usando io è un 60 A della Cetto di Torino, che è una bestia pesa 25 kg, questo non ha nessuna ventola e teoricamente può dare oltre 70 A questo alimentatore, 70 A continui, per cui i transistor stanno lavorando, non dico a piena potenza, a tre quarti di potenza, non ha nessun problema di ventola. Io anche se attacco 2 440 da 40 A di assorbimento, questo non scalda manco un peluzzino, è manco rugoso, ne avevo un altro 25 A continui, ogni tanto quello lì, la ventolina si attaccava ed era lo stesso un alimentatore a trasformatore, però sono sempre un po' tirati. Questo dell'accetto è un alimentatore, diciamo, quasi a livello professionale perché è da laboratorio ed è calcolato in modo da lavorare con tensioni e con assorbimenti molto superiori a quello che effettivamente è dichiarato, per cui questo è dato per 60, ma ne può dare anche di più, molti molti di più di potenze di ampere. Questi switch che loro, per farvi vedere che tirano un bel coso per abbassare di plastico, ti do un alimentatore a 30-40 A prezzi allucinanti, però li stai tirando il collo. Una cosa che ho notato è che rimane freddo, è sempre freddo, per quanto tu moduli anche a banda laterale, quindi questo per come l'ho regolato da un 50 modulati, 60 massimo, freddo, proprio non dà segni di neanche di intiepidimento. E poi comunque hai ragione, io l'ho preso per il prezzo, perché 69 euro vanno più che bene, pensa che se l'avessi dovuto prendere classico un trasformatore avrei speso almeno per un 30 A mi pare 230 euro che non ho e non avrei mai speso comunque. Sì, no, il discorso è quello lì. Allora, il futuro lo switching, infatti tutti i computer, tutti i televisori a schermo piatto eccetera eccetera usano l'alimentazione switching, i decoder digitali eccetera eccetera, sarebbe improponibile fare un alimentatore a trasformatore, per cui è quello switching, danno tensioni allucinanti con dei pesi e degli ingombri minimi, solo quello lì, però è una cosa molto critica a livello costruttivo, infatti ci sono degli switching e altri tipi di switching, se tu con lo switching di certi livelli lì lo paghi qualche centinaio di euro. E la stessa cosa è il trasformatore, quel prezzo del rame, un alimentatore e trasformatore normale, analogico diciamo, da 30 a 40 ampere paghi più che altro il costo del trasformatore, perché c'è il rame appeso, il rame adesso è salito tantissimo, non dico che sia quanto l'argento, ma ci stiamo avvicinando a livello di costo, perché c'è dei prezzi fuori dal mondo, sono pochi i produttori mondiali del rame, per cui deve andare per forza in quei produttori e loro fanno il monopolio e fanno loro il prezzo. Però ti posso garantire, se c'è un bel trasformatore, infatti l'alta ferretta, tutti gli apparecchi dell'alta ferretta sono tutti di certi livelli, parliamo, non per fare solo amplificazione, e sono tutti a trasformatore, preferibilmente anche quelli toroidali, è ancora meglio, hanno un rendimento magari molto ma molto inferiore, però sono più stabili eccetera eccetera, hanno meno altri problemi di quanto potrebbero creare questi switch, che soprattutto quando stiamo parlando di alta frequenza. Di questo vabbè, ne hanno parlato bene, però ricordati che quando parte questo parte di botto, potrebbe rovinare anche l'apparato in teoria, ma tocchiamoci i zebedei, speriamo di no. Conta che io addirittura l'avevo preso in origine per alimentare i baracchini, anzi per alimentare l'inaretto del baracchino, l'inaretto d'accento, tutto lì. Questo apparato io non preventivavo assolutamente di prenderlo, anzi ero contrario a questo tipo di apparati per la 27. Poi vabbè, è capitata l'occasione, sapevo chi l'aveva seguito, questo l'aveva seguito Fabrizio, l'aveva allineato bene, benissimo, e vabbè, poi ho preso anche il microfono a parte, che se no non ce la facevo un'istruttura. No, sono apparati su senza vantaggi di K. Sulla 27 non c'è di meglio, come tipo di modulazione non ce n'è per nessuno, tu puoi fare qualunque apparato dalla IESU, ICOM eccetera eccetera, la modulazione del K è inconfondibile, ma anche parliamo di apparati, se tu la senti confrontata con, parliamo di ICOM e di IESU, di apparati di COSO, di nuova generazione, la modulazione del COSO, del K se dà da fare e si caga molti apparati di ben prezzi superiori. Infatti un sacco di gente quando li sentivo lì come hanno sempre prestazioni eccezionali, però i modulatori sinceramente non mi piacciono molto, sembrano equalizzati, un suono un pochettino sintetizzato, dai, come quando tu ascolti un impianto valvolare di alta qualità confrontato con un impianto a transistor, è una cosa diversa, è più naturale come modulazione quella dei COSO, dei Kenwood. E adesso ne ha fatto uno, che è una cosa fuori dal mondo, per me è il miglior apparato che c'è in circolazione, il nuovo Kenwood 990, ho visto le prove, la cosa, è uno spettacolo davvero quell'apparato, tutte le cose che c'è è una cosa fuori dal mondo, poi l'estetica è spettacolare, tutto touchscreen con due display, due monitor, cioè un computer, una cosa da vedere quanto è bello, perché si è parlato che la Kenwood non esisteva più, era morta, invece per dimostrare che esiste ancora ha tirato fuori questo apparato, costa 13.000 euro per dirlo, però è una cosa fuori dal mondo, bello bello. E mi pare anche di averlo visto su internet, se non sbaglio, è un mostro, a parte che è grande, questo ne fa tre di questi, mi pare. Vabbè, io mi accontento, e penso che usavo un Superstar 3009 prima, bello anche per ricevere, a ricevere 40 metri soprattutto. Pensa che ho una mezz'onda che in più è raccorciata, no? Anziché essere in totale 5,50 m, questa è lunga in totale 4,34 m, perché la LEM, non sapendo cosa fare, ha pensato bene di accorciare lo stilo e fargli un bel di bobina, capito? C'hai qua stilo corto e un bel di bobina rispetto a quelle della Echo, e quindi rende così così, dai, rende anche un po' meno di una mezz'onda secondo me. Ma no, ma diciamo, io dico una cosa, stiamo parlando di cose che effettivamente non si potrebbero utilizzare, però uno che vuol spendere un pochettino di più, è inutile secondo me buttarci i soldi in apparati modificati, perché c'è gente che spende 400-500 euro per apparati tipo Alan 48 e cose del genere, a quel punto quei soldi li investi per spendere qualcosina di meglio, veramente di meglio, soprattutto non dico tanto di trasmissione a livello di potenza, perché potenza non conta niente, uno se vuole più potenza si mette l'amplificatore e fa quello che vuole. Parliamo a livello di ricezione, di possibilità di spostarti, di filtri, eccetera eccetera. Secondo me, se uno vuol fare un salto, è meglio buttarsi su quel fatto lì che utilizzare questi baracchini o pseudo baracchini modificati, che poi ti danno problemi di disturbi eccetera eccetera, di sbatte, sovramodulazione eccetera. Almeno di lì, a livello di disturbi, sono apparati super selettivi e esenti, diciamo esenti, molto ridotte le emissioni di disturbi di armoniche, per cui anche se ti rifugi male 40 watt, però sono 40 watt puliti. Se riguarda l'analizzatore di spettro, confrontati a per dire a un Saturn Echo, una cosa del genere, di quegli apparati di quel genere lì, che tirano fuori male 30 watt, che sono tutti sporchi, distorti eccetera eccetera, mentre con un K, e parliamo di un apparato radioamatoriale con certe, diciamo, certi circuiti di filtraggio e di processione del segnale, è un'altra musica. Questo comunque è abbastanza semplice. Tu devi trovare molti più filtri, più approccio stretto di ricezione, invece è come un baracchino a larga banda, diciamo. Quello che non mi è piaciuto tanto magari erano piccole cose, tipo che lo squelch funziona solo in FM, per dire. Io uso lo squelch anche in AM, tanto per togliere il fruscio di fondo. Poi che so, io adesso per esempio ho 20 watt, sì, adesso ho scaldato, sono 20 watt in AM, no? Se metto l'FM sono già 50 e mi tocca abbassare. In banda laterale non ne parliamo, sono 60-70. Se avessero fatto la potenza giusta, no? 20 in AM, 20 in FM, 20 in SSB, poi se devo alzare lo decido io. Ma vabbè, comunque sia, bel apparecchio insomma. E vabbè, e allora ti dico, devi tirare 140, te le dico subito. La cosa più brutta sono gli slider della potenza, non valgono niente. Idem il discorso del regolatore del microfono, molto scomodo da usare, è troppo sensibile. Sono meglio quelli del 440 rotativi, che sono molto più precisi da utilizzare e più comodi. Limite, secondo limite, se devi canalizzare le frequenze, per dire, mettere, cioè, a me sembra 30 bemolle, per cui i canali sono 40, dovresti usare due fre ogni volta, se per dire devi andare dall'1 a 40. Poi il secondo motivo, secondo me meglio spendere un pochettino di più quei 50, 80 o certe volte anche 100 euro quando la parte montone è in ultimo stato, e spendi un quasi 40, c'ha 100 memorie, è molto più silenzioso, perché il 140 è un po' rumoroso come apparato di ricezione, c'ha un limite, diciamo, sente, si tira un po' di sporcizia appresso e basta. Poi il 440 c'ha un'ottima ricezione, a livello di potenza ne ha un pochettino di più, uno ne ha 40, l'altro ne ha 50, in AM, in FM sono più o meno simili, un centinaio di watt, uno 81, l'altro 100 watt, però fa un grosso salto a livello di ricezione, è molto molto meno rumoroso e un po' più selettivo, per cui molti segnali, io te lo dico perché li ho confrontati tutti e due, li ho tenuti per un po' di tempo e attaccati insieme sulla stessa antenna, c'è una grossa differenza a livello di sensibilità e di pulizia di segnale, ricezione e trasmissione, si equivalgono, non ho più la differenza, cioè io ti parlo con uno e poi attacco l'altro e tu non ti rendi conto della differenza, sono totalmente identici a livello di trasmissione, qualcosina di più di potenza, ma limiti molto limitati, diciamo, a livello molto limitato. Però c'è di buono che c'è i controlli, lo scorci, come hai detto tu, lo utilizzi anche in AM se ti interessa usarlo, poi puoi mettere dei filtri più stretto, largo, poi vabbè c'è la scheda fonema che non ti rende mai nulla, però chi interessa ce la potresti utilizzare, per chi ha necessità di problemi di vista o cose del genere ti dice la cosa, la, e basta. Per il resto sono abbastanza simili come dimensioni eccetera. Vai che ero al telefono, vado a cenare finalmente, ma non tenuto mezzo al telefono. Meglio del 440 e del 430, e non si discute, su questo non ci piove, te l'ho già spiegato a Marco, purtroppo lui c'ha due conversioni, quindi è così, però qualità prezzo è un ottimo baracchino a sintonia continua 140, vai. Per quanto riguarda 440, vabbè, molto più silenzioso il 430, molto più selettivo, anche perché monta una serie di filtri diversi da quelli del 440, più professionale come ricevitore, come trasmettitore anche, è tenuto molto più in considerazione del 440, infatti io ascoltato i vecchi radioamatori, mi sono fatto fuori il 440 e mi sono tenuto il 430. Va bene. cenare e ci sentiamo, non so se rientro, comunque ci sentiamo, statene bene tutte e due, avanti Marco. Ciao Claudio, buona cena, ci sentiamo appena possibile, riprendi Roberto. Sì, sì, diciamo, per certi versi ti do ragione, però il problema del 430 lo sai cos'è, che sono paletti molto vecchi e devi prevedere che prima o poi qualche problemino te lo dà, qualche componente va in perdita, per cui o te lo ristitui, cioè te lo revisioni completamente, perché come hai detto tu è una tripla conversione, per cui c'è un sistema di selettività, di sintonia sicuramente superiore al 440, è un apparato però di generazione precedente e c'ha altri problemi, dai, ti possono nascere altri problemi, come sono nati a me nel 440 mia rispetto all'altro di generazione più recente, e di lì capisci. Lo so, però io per esperienza vissuta, Roberto, ti dico che il 430 ha dato molto meno problemi del 440, e ti spiego subito perché poi vado a cenare, perché essendo nata prima, l'hanno proprio studiata apposta per poter garantire quelle determinate cose che fa, quindi le tre conversioni, i filtri della Collins, altre cose che ha all'interno, eccetera eccetera, tutti i selettori che sono tutti a relè e così via. Quando è nato il 440 si sono un po' rilassati, i problemi che dà il 440 soprattutto sul PLL e sul VCO, il 430 non l'ha mai dati, l'unica cosa che dava qualche problemino al 430 è quello di perdere molto molto prima la memoria rispetto al 440, perché una aveva la batteria a litio, l'altra invece era una batteria normale, di normalissima generazione, che poi è stata sostituita lo stesso, ma problemini proprio da niente. Io non ho mai visto il display come fa il 440, e tu lo sai quale difetto che fa. Io ad esempio il 430, quando avevo il 440, che è sempre questo, ne avevo due, uno si era crepato, l'altro Fabrizio si era messo a posto, lo lasciavo sempre spento, lo accendevo, perfetto, display tutto in funzione alla grande. Una volta ho invertito le antenne, adesso mi uso un po' il 430 e spengo il 440, certo, in una settimana solo per accenderlo non funzionava più, display tutto a puntini, l'ho dovuto lasciare due giorni acceso per riprendersi, capito qual è il problema. E infatti ho deciso, siccome mi sono già fatto troppa esperienza tra 140, 680, 430, 440, 450, 850, 940, tutte le linee 8, 820, 830, 870, me le ho fatte tutte, io sono un cambodiano dal 1986, ok, quindi l'esperienza me la sono fatta. Mi sono tenuto la linea completa del 430 e ho dato via il 440, quindi non mi cambia niente perché c'ho l'accordatore automatico anche sul 430, PS50, PS430 la sua colonnina e l'MC60, già la conosci la linea, quindi ho preferito tenermi questa che la linea del 440, proprio perché ha meno difetti. Vi lascio un abbraccio a tutte e due e ci sentiamo sempre dopo, ciao. Ah, scusa un attimo, ti lascio andare, mi adesso arrivato, sto guardando qua su coso, su questo, sta vedendo il 140, Massimiliano. No, sto vedendo il 140, ma non mi serve. Quanto, 300? No, non ci sto niente, vendo che devo tirare il 440, a caso non utilizzo, perfettamente funzionante in tutte le frequenze, e anche il Magnum c'è scritto, quando ha chiesto uno, in vendita anche il Magnum, c'è scritto sì. E intanto anche lui sclera, evidentemente vuole cambiare, vuole prendere qualche altro apparato, io non l'avrei dato comunque. Io l'ho dato perché ce l'avevo doppio, altrimenti me l'avrei tenuto, ma non... In questo momento io non vendo niente, anzi sto cercando di acquistare un bel 940 che ho visto. Ma l'hai visto quel 430 che c'è in coso, su eBay, 515 euro più 25 euro di trasporto. 430, Robè, è quotato più del 440, nonostante il 430 ha bisogno dell'accordatore di linea della T250 automatico, il 440 ce l'ha interno, fatti il conto. ci sentiamo. E ok, vabbè, se ci sei ancora, buona cena, dai. Ok, riprenditela Marco, dai, avanti. E dimmi un po' tu come è composta la tua trazione, cosa c'hai oltre il ricevitore, cosa c'hai Marco? Allora, stazione, chiamiamola stazione, l'alimentatore, questo apparato, il microfono, qui sto usando un accordatorino per la 27 perché questa sotto antenna, come piove, vanno a dure stazionarie, sono costretto, adesso c'ho anche troppo, come mai? Aspetta che abbassa appena 1,1. Ecco. Purtroppo come piove è un casino e prima che scende la stazione le passano giorni, vabbè. Poi ho un Superstar 3009 che usavo poggiato sopra con delle gomme sotto in modo da non graffiare, linearino d'accento della RM Italy, tutto lì, tutti gli altri apparati sono omologati, li uso in macchina più che altro, vale un 48 Excel, roba del genere, Comex 4000 Echo, 240 canali. Roba avanzata, capito? Roba avanzata dagli anni 80-90. Ormai c'hai stazione, ma che cavo stai utilizzando? LG213, te l'ho detto, è l'antenna. Questa antenna, per quanto l'abbiamo isolata, quando piove vanno a due stazionari, non c'è niente da fare. È un'antenna, sarà per la bobina, non lo so. Questa è una Ringo della LEM. Sì, sì, la conosco. Ormai non l'hai messo la mantova? Allora, troppo pesante, poi hai i radiali, io non voglio tirantare, non voglio radiali, perché il vicino ha messo l'antenna su un palo alto a fianco alla mia, se uso radiali gli tocco l'antenna, poi non voglio tirantare perché non voglio storie. Comunque ho già valutato, vabbè, quando questa mi lascia prendo la Energy 5 ottavi della Midland, è più leggera della Mantova, la Mantova è 4,5 kg, quella è 2,5 kg massimo, 3 radiali, quindi io ruoto l'antenna in modo che i 3 radiali non infastidiscano l'antenna, capito? 3 radiali è ottimale per me, con 3 radiali posso anche metterla, abbasso il palo da 6 metri a 4 metri perché sennò senza attirante è un casino, 4 metri di palo più 6 metri a mezzo antenna è ottimale, vabbè, vedremo anche quanti sono, quanta è la pecunia. Comunque ti stavo dicendo, le 440 ti dico cosa mi piaceva molto, l'accordato interno, che avrei utilizzato anche il 27, oppure avrei usato per ascoltare su altre bande, intanto da accordare, e quando accordi anche ricezione ascolti meglio. Invece quello che mi ha detto Claudio è che ho letto su internet quel problema al VCO che sta diventando molto ricorrente nei 440. Allora, se agisci, a parte che ci vuole una persona molto preparata per farlo, se agisci in fretta riesci a rimediare al problema, se passa troppo tempo il problema diventa irrimediabile e quindi non puoi più fare niente. Beh, tutto, non c'è niente di rimediabile, gli cambi la scheda se non vuoi cambiare tutto il coso, quando 440 ce ne sono a bizzeffe, magari quello che non c'ha problemi in quel settore del circuito le metti quell'altra, perché tanto il problema non è che nasce statico su quella maletta, ma parla proprio di quello che ho fatto su quell'oscillatore, ci sono quattro oscillatori, non è detto che sia l'oscillatore per dire, non è normale per dire che ti faccia sempre lo stesso problema su quell'oscillatore, per dire ti può capitare nel primo, nel secondo, nel terzo o nel quarto, a me sembrerebbe che lo faccia nel quarto, dopo qualche minuto si riprende e torna tutto a posto suo. Ho capito, ma avrei dovuto spendere anche di più e vabbè, questa mamma mi fa casino, vabbè, comunque bene o male ho avuto un attimo di ripensamento, ma poi ci ho pensato meglio e ho preso il microfono, perché senza microfono, quel microfono originale, quello da palmo, era una fufu, una cacca era. Vabbè, non del tutto era passabile, ma con questo non c'è paragone, questo è proprio un altro mondo, il microfono da tavolo. E nota che io non amo i microfoni da tavolo, non li ho mai amati. No, io è esattamente il contrario, io ormai ne ho a bizzeffe, però non ci riesco a utilizzare, mi sono in macchina, nel camper, che per quelle pochissime volte che le continuo a puntare le dita che l'ho utilizzato il microfono da mano, che io sono assolutamente non c'è proprio, non mi piace. Sono di tipo che sta seduto, allunghi la mano e schiacci il tastino delle. Tutti i microfoni miei, la maggior parte infatti sono tutti da tavolo, quelli da coso, da tasca, da mano li ho tutti messi da parte, tranne in questa lampadata dove c'ho qua nel coso, nelle altre stazioni sono tutti dal Tanner, dall'Intec, dall'M600, dal Tanner che c'ho, ne ho una decina di microfoni, sono tutti da tavolo. Ho capito, beh sai cos'è, io usando vari apparati a turno qua per utilizzarli, ognuno c'ha il suo microfono, poi le prese a quattro poli non corrispondono mai, con l'Intec non corrisponde con i quattro poli del Superstar eccetera, quindi anche avendo il microfono a tavolo come potevo fare ad adattarlo a tanti apparati, allora vabbè, lasciato perdere. Ognuno c'ha il suo da palmo, più o meno amplificato, e va bene così. Ma guarda, ti posso dire, a parte la serie del coso, io per dire, la serie della 48, la serie patch, i microfoni li ho tutti standardizzati, le connessioni, quelli che hanno 6 poli, tipo l'Intec, quello nuovo, il purtroppo devo utilizzare, che c'ha il cambio canale, quello di quel tipo di connessione di lì, ma gli altri, il Royce, il patch, chi c'è, l'altro Intec, l'Alan 48, il... No, quello no, almeno altri 4 baracchini c'è lo stesso tipo di attacco, li ho standardizzati, modificandoli dall'interno, per dire, il patch me ne è stato modificato dall'interno, per cui devo attaccare il microfono, non devo fare altro che attaccare il microfono. L'Alan 48 la stessa cosa, anche se ci ho messo così un M93 di microfono di lì, da palmo per comodità, e basta. Però siccome non mi piace a me avvicinare la bocca, notare, io sono molto scrupoloso quando parlo, mi piace avere sempre la costanza della modulazione, non di quelli che dice oh mica stai saturando perché sei troppo vicino alla bocca, sei troppo lontano, eccetera eccetera. Mi metto sempre seduto, comodo, a una certa distanza, e normalmente la modulazione mia è sempre uniforme, non ho dei picchi da alto a basso, almeno non mi hanno mai detto niente che stavo strillando o che ero troppo basso. Papà, io so dove l'ho messo il microfono, io sono seduto sul divano dalla parte destra. Il microfono è poggiato sul bracciolo, quindi io quando mi siedo l'unica posizione possibile è questa. Sono 30 cm dal microfono circa, 30 cm sì, penso che ci siano. Certo, naturalmente che se parlo così ovviamente esco male, da vicino, vicino. Ma ti stanchi, lo sai, tenerlo così, lo puoi girare un pochettino, è scomodo, invece sono appoggiato alla poltrona, c'è una sedia girevole, con la studio, grande, appoggiato e rilassato, microfono, molte volte voi, c'è tipo certa gente, vai, si corica col baracchino vicino, e alla fine non lo senti tu perché senti parlare, e dici, ma mi sono coricato, sono di fianco, e no, se poi ti viene l'usando un burro, invece così sei più tranquillo. E quello lo faccio io, mi corico sul divano, agisco sul tasto con la mano sinistra, ogni tanto mi viene sonno ascoltando, e vabbè, anche quello è utile, visto che soffro di insonnia. Sono insonnia cosa brutta, io ci devo combattere, vabbè, un po' le preoccupazioni perché non lavoro, più altre piccole cose, quindi. Comunque a proposito degli slider qua, concordo che sono delle cagate pazzesche, potevano farlo pagare un po' di più e mettere classici potenziometri. Comunque non li muovo più, io ho messo l'NB level in una posizione e non lo muovo più, la RF gain non lo muovo più, il mic gain non lo muovo più perché ho trovato la posizione ottimale, vabbè, quello del CV semi full non mi serve. Se voglio abbassare la modulazione, levo il processore, ecco, così sono senza processore, vedi come va. Se voglio abbassare ulteriormente sotto il microfono, gli levo l'amplificazione e diventa un microfono normale. Non so se è presente quella levetta che c'è sotto. Sì, no, la conosco benissimo, non ci sono problemi. Tu lo metti la potenza più o meno a metà, lo metti nella C livello microfonico, dove c'è scritto Mickey, lo metti all'altezza della scritta C dove c'è il livello microfonico, però secondo me non ho capito la funzionalità di questi slider, perché sono talmente delicati, non dico tanto a livello microfonico, ma a livello della potenza, come lo tocchi appena appena un pelusino, tac, parte la manetta. tanto il costo di uno slider rispetto a un potenziometro siamo uguali, non è neanche questione di costo. Non ho capito perché, quale motivo non hanno usato anche dei potenziometri, non dico più grandi perché hanno problemi di spazio, li usi un pochettino più piccolini e forse non lo so. Ma il fatto che il 440 poi l'hanno modificato e hanno messo doppi potenziometri, che lo stesso nel livello microfonico c'è il doppio potenziometro, il regolare della potenza, poi c'è quello dello squelch, ti fa anche il notch, poi c'è quello della radiofrequenza, il RF-gain ti regola anche l'LC, non mi ricordo cosa cazzo regola, poi c'è quello del RIT, eccetera eccetera, per cui ho preferito il 440 al 140. Ecco, in effetti qua potevano mettere dei potenziometri doppi, no, uno concentrico dentro l'altro, e c'era potenza, microfono, RF-gain NB, era perfetto. Il CV doppio c'è lì a scatto, quindi sarebbe rimasto uguale, ma vabbè, non l'hanno voluto fare. L'importante è non stare sempre avanti e indietro come fa qualcuno che sta quindi lo senti o basso o saturo, basta lasciarlo così come va. A proposito, vuoi fare una prova? Guarda, cazzo, ecco, adesso è out. Allora, così sono, aspetta che parlo vicino, 10 cm senza processore, microfono normale, io ho eliminato l'amplificazione 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ora col processore vedi come va, quasi il microfono praticamente è come se fosse un microfono normale. Come va? Comunque, la differenza si nota parecchio a livello di intensità di livello microfono. Eia, comunque così è una normale modulazione oppure deficita troppo? Adesso c'è il processore inserito. Staffa, processore inserito, microfono normale. Il microfono normale, come hai fatto? Cioè, è chiuso completamente le cose, hai fatto, non ho capito. Allora, sotto il microfono, lo sollevo, ecco, c'è questo comando, mic amp, in e out, in sarebbe on, out off, adesso lo metto di nuovo su in, e quindi inserisco l'amplificazione del microfono. L'amplificazione, processore e preamplificazione. Un attimo, ma tu stai utilizzando il 60? Kappa, MC60. E 60 c'è che c'è un interruttore, io non ne ho un interruttore. Ma non lo so che versione sia, sotto il microfono proprio. Non sapevo che ci fossero varie versioni, sapevo che esisteva l'MC60 e l'MC60A, che non so cosa cambia. Tu c'hai il 60A o il 60 normale? Normale. Io so che l'MC60 era la versione America e l'MC60 è la versione per tutto il resto del mondo, però io non ne ho interruttore, ne ho visto anche gli MC60 che davanti hanno una rondellina di regolazione, ne ho visto tre versioni, ne ho visto, però il mio è normale, sotto dove c'è scritto, dove c'è la base del microfono sopra, c'è scritto Kenwood MC60, di lì, prima della scritta, di lì ne ho visto uno con la rondellina di regolazione di guadagno pure. Ho capito, no, è una cosa che non sapevo, vedi. Questo l'ho chiesto a Claudio cos'era e mi ha detto che di lì si esclude l'amplificazione, quindi se per qualche problema in SSB fossi saturo troppo forte, lo metto normale, parlo vicino e risolvo. Adesso è tutto come prima, eh? Allora, mamma mia, non posso parlare che va subito a manetta, è una cosa allucinante. Sto parlando a voce anche pacata, non sto parlando tipo così, parlando a voce, sto parlando a voce pacata e va subito a manetta. Io te la appoggio. E io te la spingo, Antonello. Allora, è gringo. Saluto a tutti e due. Sì, scusa. Ma con te metti un sacco di problemi per niente. Sei, guarda, una cosa impensionante. Io quel problema non me l'ho mai messo, ma facciamo quello che si affanno. Stai diventando, guarda, no, non so, del prezzo stai diventando. Guarda, qui va parecchio leggero, forse è meglio che ti prendiamo un'altra cosa. Ti stai, mettendo un sacco di problemi per niente. Buono, sei tranquillo, non devi controllare nulla. Ti stai facendo bene, cosa della fuori di quello che c'è scritto nel manuale adesso. Buono, lo mettiamo in manuale e basta. Non sei fuori, se per caso sei fuori qualcuno se ne accorge, quindi fregatela, se andrò bene, ripigliatela Marco. No, Antonè, io non mi sto facendo paranoie, io stavo illustrando a Roberto una funzione che da lui non c'è, tutto lì, non mi sto mettendo paranoie, Antonè, di nessun tipo. Se sì, ti sento ad un giorno con questa lì fregatene, io stavo soltanto tranquillamente, mi volavo, non ho mai, guarda, controllato i parametri, perché no, la carica andava bene, perché non è mai stato toccato il tenuto mio, la verità, né con la lì né niente, quindi ecco il motivo, e qui non mi sono messo problemi, il mio era vergine e lo voleva parecchio gente, lo voleva parecchio gente, quindi stai tranquillo, metti i paranoi, Marco, te lo sto dicendo io, avanti, vabbè. Antonio, mi hai sentito? No, sto facendo delle prove, perché lui c'ha il 60 con l'interruttorino che può escludere l'amplificazione, io non ce l'ho, io ho il classico 60 come ce l'hanno tutti, normale, senza questo interruttorino, infatti non riuscivo a capire, ma da dove sta commutando questa amplificazione e basta. No, per il resto stavo uscendo benissimo, niente da dire, non è saturo, i livelli di modulazione sono perfetti, le tonalità vanno bene, per cui gli avrei detto se c'erano dei problemi. L'unico problema non ho detto, c'ha l'alimentatorino che fa un leggero rovinio, che poi la ventola qui sottofondo, ma coperto dalla modulazione, nient'altro. Ok, vai Marco, a te. No, comunque Antone, parlando della LC, ho preso una cantonata formidabile io. Allora, la LC serviva esclusivamente per il CV doppio, quindi ho sbagliato io, non era per la banda laterale, per il CV doppio. La banda laterale non dice nessuna modalità, premi e parli e basta, tutto lì. Allora, per andare banda laterale devi fare una cosa, lasci il MC60 così com'è, togli il processore e pigli che fa gli XR normale. Una volta vai la M, attacca il processore e sei a posto, come facevo io, fare è uguale, show. Sì, comunque ho parlato anche con di nuovo con quello di, porca miseria mi viene il nome, di Ramit di Chiaramonti, anche col processore ha detto che andavo benissimo, era piena, proprio potente. Meglio così, sono contento, ma non ti mette i problemi, cioè sono nuovo, guarda, sono fatto io i primi giorni che uscivo così, non sapevo come da cui uscivo, avevo dei problemi, perché c'avevo le MC60, c'avevo l'alimentatore, e quindi uscivo da schifo, quindi non ti capisco, guarda, però non ti mettere i problemi, cioè di paranoie strane, sono bene, lascialo così com'è, te ne hai preso, muovitelo, fregatene di quello che ti dicono gli altri, fregatene, muovitelo, l'apparecchio e basta, quanto me l'ho voluto io, quasi 20 anni, quindi figurati tu, avanti, vabbè. Questo cosa c'è, 80 il tuo 900? Allora, io 70 non ce l'ho più, ho venduto 250 euro, capito? Perché non fregava niente, no, io non vado al mercato che c'è, sembra il mercato delle pulci, come quando vai all'auto, che tu guardi il che uno vale i 80 per dire 350 euro, lo vendono così, non esiste, è la parecchio che ha un sacco di anni. E quindi anche se lo vendo i 50 va bene lo stesso, non è che ci piango, non me ne fate nulla a me, per dire, e quindi l'ho venduto così, capito, vabbè. Beh, contento tu, se ti stanno bene, ma il mercato è intorno ai 300-350 euro, vabbè, stanno vendendo i baracchini, certi baracchini non hanno aggiunto, la gente se li compra a 300-400 euro, gli ho detto, buh, niente, devi intendere, mezzo mancante per avere questi effetti strani, elicotteri, paracadutisti, cosa fai, di tutto. Io sinceramente spenderei soldi, tanti soldi per un baracchino modificato assolutamente, è solo una chicca di uno che dice, un camionista che si vuole far sentire da lontano, ma per uso quotidiano in città non ne va in nulla. Sono offesi, perché se tu guardi su internet adesso l'Alan costa 84 euro per esattezza, ha calato di prezzo, non è più 200 e passa lì, adesso 84 euro, quindi la gente ne approfitta, capito? Siccome non riescono più a vendere niente, quindi i prezzi sono calati, come le case, i prezzi sono calati. E dove? Guarda che l'Alan 48 costa sempre 179 euro, 84 euro sarà usato. No, era nuovo, l'ho visto su internet, lo sto dicendo per quel motivo lì, ne stavo vendendo una quindicina, stavo vendendo, l'ho visto prima di guardarsi il computer per l'esattezza, perché adesso il computer ormai è fottuto e quindi non ci posso più fare niente. non so cosa ci sia entrato, si è entrato un virus o quello che me l'ha bloccato e non si usa nemmeno la pennetta, perché non me la accetta più, oh Marco. Se vieni qui, te lo faccio vedere, perché è vero. Quindi c'è un sito dove ci sono quei una ventina di aro in vendita a quel prezzo lì. Infatti mi sono andato meno abbigliato, gli ho detto ma non vai a un calazzo, mi era ora. Se ne sono accorti che la gente ha cominciato i soldi e quindi che vabbè, non si fa più pigliare per il culo. Tutto lì. Boh, o sono rubati, non lo so, a quel prezzo mi sembra incredibile. Vabbè, Roberto, secondo te problemi mi sto mettendo io? Boh, non mi sembrano. Diciamo, stavamo solo discutendo, qualcuno magari già ce l'ha messo i problemi. Io dico una volta che stai uscendo bene, tutto a posto, ti dicono sì va bene, non devi toccare niente, tu stai uscendo bene, per cui il discorso è chiuso. Non solo le uscite dei pomponi ogni tanto, entra sparato, non ti mettere problemi, quanti problemi stai mettendo, a me non me ne sto mettendo. Casomai Antonio, a me piace sperimentare e conoscere, tutto lì. Va bene, ascolta, il computer non lo so, ma ti sei accorto se è entrato qualcosa, hai modulato su siti poco affidabili? È un sito un po' l'ho fatto, però da poco, quindi sto scherzando. Luca, a proposito, dato che sei stato tu, mi ha scritto Antonio l'altro giorno di lasciare perdere la ragazza che ti ho detto io, che sta cercando su, non so che cosa, dice c'è un sacco di gente appresso. Cosa ti fa qui, boh? Dice c'è lui che ha gli occhiali. E siccome c'è un computer bloccato, ieri, cioè, l'altro giorno c'era il temporale, quindi ho spento tutto per sicurezza. Quindi dato che sei stato oggi, te l'ho detto oggi. Mi lasciare perdere la merda quella, poi non so se ci abbiamo 50 persone appresso o questa, cosa cazzo ne so. Mi sono in cura, ma ripetiamo qui lo scritto. Guarda, amicizia, mi ha aggiunto, basta, non gli ho scritto nessun messaggio, cosa me ne ha fatti. Vediamo se pure Google non mi interessa. Non ho mai scritto un messaggio, ho lui, non sono di quelli che io, mando l'amicizia e poi gli mando un messaggio privato, no, mai. Accetto e boh. Cioè, va bene, se no, in base agli amici che ho, secondo chi è la rifiuto, una fortunata, che può essere un contatto fasullo. C'è un account fasullo, alla preferenza non accetto e buonanotte. No, tranquillo, non gli scrivo niente, non mi interessa. Si può pure ammattarsi, boh. Se la cardinale si travaglia. Se mi ha telefonato, Antonio, me l'ha detto cedigli a Luca che lasci perdere che sta cercando soldi cosa voglia da me a te. Mi ha detto così, e poi vabbè, tu quando sei tolto, io dico, la verità. Ho detto, ho sentito oggi, non è che è successo anche ieri questa storia qua, mi ha fatto 4 volte lui, e mi ha detto che sta cercando soldi, che ha messo due nomi diversi, non so che cosa, la verità, ha detto, a me ha detto, me ne fate un cazzo, ha detto, di quella lì, non l'ho mai incurato, l'ho fatto, ha detto, la verità. Mi ha chiesto amicizia, mi ero data, però non ci ho mai parlato, e tanto meno io sono fatto così, ho già capito anche tu Luca, io vado solo su internet, penso solo a farmi così mie e basta, parlo solo con 3-4 persone, a volte anche 5, quelli che sono, li conosco, poi gli altri, mi posso tutti gli amici di loro, non me ne ha fatto nulla, basta che non mi parlano per niente. Poi vado da solo come un cane, poi ci sono i maniaci, i salvaggi, ma cosa me ne affrutti a me? Sono fatto così. E invece poi mi si è guardato il computer e si è bloccato, non so cosa si è successo. Al limite, se non c'è niente da fare, te lo guardi dopo domani, anzi me lo guardi. Non so cosa è successo, non mi fa più entrare, cioè, con la pennetta, no, mi ha bloccato tutto, la verità. Avanti, Roberto. Vabbè, avanti, chiudo adesso, dai, che ci sono già da un po'. Ci sentiamo, vi saluto a tutti, ciao Luca, Antonio e scusami, adesso vi sentiamo, Antonello e Marco, dai, poi tutti gli eventuali amici in ascolto, cuore da parte mia, ciao ciao a tutti. Ciao Roberto. Ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime, dai. Luca? Ciao Roberto, buonanotte, alla prossima, ciao ciao. Marco, che credi tu da? Boh, parla che tu. Non sarà la vendetta dell'hotel, no? L'hotel Caro Felice. Ah, c'è stato un altro Caro Felice, ho lasciato passare. Io mi collego lì, mi collego tranquillamente. Siamo solo lì che si collega da solo, la pennetta. E il fatto che con il tuo computer è andato tutto in internet. Ha fatto quel temporale l'altra notte, sono andato a accendere e non pigliava più l'incidente. Mi diceva, come si dice? Ah, fanculo. Proprio come sentivo riconosciuta, capito? E boh, ci sono bei motivi a te, bisogna vedere cosa è successo. Io vedremo adesso, un pochettino, sono qui io e non ho fatto un cazzo, ce la faccio perché la facevo prima più. A un certo punto guarda, forse è meglio il... forse è meglio un barattino, guarda, almeno lì non ci sono virus, non c'è un cazzo. Non devo stare ogni giorno, cazzo, questo ogni anno, cazzo, basta. Rifai quello, rifai quell'altro, diventare scemo, non saranno. E poi ripagare, cioè il primo anno trovavo gratis, poi ripagare. Dai la bozza. Le campane a morto. Casino, E poi sai cos'è, su Facebook c'è troppi ceramidi, gente a maligna, non mi piace, non mi è mai piaciuto. Vabbè, a parte le bagasse che ci sono, c'è più della 27. E quello è poco ma sicuro. È peggio del baracchino negli anni 80, Facebook. Io me ne sono reso conto io da solo, anche perché con me che io amicizia non ci parlo mai, la verità, e poi ci rimangono, fanno in cerca di alloggio, come è successo un'altra volta. Poi mi ha telefonato a coso e mi ha detto così, io vado là, io la verità ho detto, ce l'ho bloccato e ho detto, a me l'ho fatto in una rete di quella. No, cioè, ci ho messo in amicizia di un'altra, sembrava una bella ragazza. Tutto un tratto, cazzo, mi sono trovato questo tipo con gli occhiali, cioè sembrava il maniaco di Alcatraz, sembrava. Ti voglio bene, mi sono innamorato di te, sei buona, cazzo. Se sembrava cosa, brutto come il coso, cazzo, a me, attaccato come il toro, poi a tutti i giorni. Pure a parte quello, sono attaccate anche 4-5 persone, cazzo, va a far culo. Lo so, è un po' una cionfra. Quella roba lì, ecco perché a me non piace mettermi dei ceramiti. E poi bisogna farci una cerchia di persone affidabili. Anche a me è successo su YouTube. Tipo entrava il tipo, ciao, ti iscrivi al mio canale. E chi cazzo sei? Messaggi un po' ambigui, mi. Anche peggio. Il canale di sotto e il canale di sopra. Qui sotto c'è il buco. Qui sopra c'è la trombocita, vedi. Va bene. Forse nel radio sono, da quando sono uscito alle... che ore erano? 5:30, 5, in macchina. Anzi, credevo che entrassi prima tu. Ero in macchina, ho accompagnato mamma a fare commissioni, ed era tutta la sera in radio dalla barra mobile. Poi ho ripreso da qua, per fortuna ho trovato parcheggio subito, meno male. Vabbè, non è che posso entrare come pensi tu, la verità, quindi sto lavorando. E quindi meglio incazzare che le baracchie non le fotte i coglioni. Sotto me non è una cosa. Preferisco i soldi, la verità. E quindi a un certo punto ho lavorato un pochettino. Non per altro. Finché c'è lavoro va bene, quando non c'è lavoro piglio la baracchina, la computer, quello che è, tanto non è che faccio niente io al computer, quindi è stata la baracchina. Un po' troppo smoccato sta diventando, eh? Sempre stato così solo io, ho fatto sempre le cose come stanno, ma sento anche che sembra vedendo di me. Tanto in questo periodo sembravi più smoccato, più incazzato, non so. Beh, incazzato a volte sì, dipende da che penso di tuo figlio, lo sai, quindi a un certo punto devi rispondere, capito? Finché stai zitto una volta, due volte, quando poi cominciare a essere vizio, ti rispondi, capito? Perché è quello che vuole lui, non per altro. Lui io sgarro, ma te la mettiamo là in alto, invece io metto in più a lui e siamo a posto, in altro modo. Lui, ma di chi stai parlando? Grazie, già lo saluto, lo so io, mi state ascoltando. Almeno cominciatemi, non le voglio sentire, che non sta pensando a te nemmeno. E lo so, c'è due tette cazzo quella, mi sta pensando meno, sta pensando a un minciotto, colpa mia. Hola. Oioi, ricordati che nella vita bisogna subire. E anche farsi inchiappettare. Certo, dallo Stato, dagli amici, dai conoscenti, da tutti. Sì, dipende, se sei sveglio, stai tranquillo, non ti incappetta nessuno. Se sei addormentato, ti incappettano forte. Tutti, anche lo Stato. Lo Stato, se ti vuole, ti incappetta sempre. E comunque è bello farsi incappettare ogni tanto, dai. Almeno è una sensazione nuova. Sì, già lo trovi anche tu Marco, non ti preoccupare. Quando sarai in casa tua che sei sposato, invece fai avrai figli, stai tranquillo che cambi carattere, te lo dico io. E lui dice, aveva ragione Antonello. Adesso sei a casa tua, sei a casa di mamma, sei tranquillo e non devi fare un cazzo. Ma il giorno che devi pagare le tasse e non le dormi la notte, te lo dico io. Quello è sicuro. In quanto alla moglie e i figli, i figli non li voglio, piuttosto mi faccio la vasectomia. Moglie, io il matrimonio non mi scompifferà tanto. Posso convivere. E tanto mi non basta una vita per conoscere una persona come veramente. Così appena ti combina qualcosa le dai un calcio nel culo e la mandi via dalla madre. E non è come pensi tu adesso. Meglio convivere sì, ma non sposarsi come fa Vito ai figli di Berlusconi che quant'è, 30 anni che convive. Sta fatto già due figli, lui è fatto grado, lui è direttore generale, lui è un maculo. Un segreto che è quella di si gira le balle e dice ah sposate siamo adesso ha fatto come ha fatto tutto padre e, siccome sono sociale nella fine mi devi dare un santo, hai capito? E lui ci affetta e quindi lui è furbo, dice no, non mi trombi a me amore mio, tu continua a fare il lavoro tuo, facciamo il figlio, te lo campo e tu sei tranquilla. Boh, non ti seguono. No, non li seguo i Felipe Berlusconi e le loro cavolate. So solo che di questi tempi c'è la mania di fare figli. Vabbè, anche prima. Fare figli, come se stessi, seminandomi. Questa mania di fare figli io non la concepisco. Vabbè che d'altronde io sono come mio padre, non sono fatto per il matrimonio, né per la famiglia. Se c'è un figlio vedrai come ti cambia anche tu, diventi più dolce, te lo dico io, a me non ti venga a cazzo di cosa la malattia che vengono le donne cazzo il posto fatto cazzo, che tu dici butti tuo figlio alla finestra come tu non ti fa dormire cazzo. A schiaffoni lo prenderei mio figlio, a cinto latte. Ragioni così adesso, prova a dire alla tua madre cosa ci dice, se ti diceva così di te, cosa avresti fatto tu, se avessi piato schiaffi da piccolino, non sei se neanche nato la verità, quindi, ringrazio che sei nato, fregati. vabbè, io sono molto cinico, perché ne ho viste e sentite troppe, ma chissà, chissà un giorno. Tranquillo, ti sposi, lo vedi con la tettina muri, ti sposi, stai bene. Ma lei è una polacca, cosa ne so io? Vai in Polonia come un sacco di gente, che sei tranquillo, ti accontenti anche, ti fai un bel figlio e sei bello innamorato. Innamorato è una parola grande. Io potrei, cazzo c'è questo microfono, potrei fare così, visto che non lavoro, mi prendo una che lavora, lui lavora, io offro la casa dove stare, e così me la cavo con poco, che non è poco poi, Tu vuoi fare, che c'è un mese vuoi fare? Ah, se non mi fa così, me. Se vuoi, se vuoi a casa, c'è categoria di sindaco, ti dà, ti offro a casa. Quindi, dice che lavoro e sei tranquillo. E più ti dà a fare i cucciugni ogni volta che vuoi. Già non è ogni volta. No, Antonelli, io sto dicendo, io ho la casa di proprietà. Se sto con una e vuole convivere, io ci metto la casa e lui lavora. Se lavora si può fare così, che avere la casa non è da poco, una casa di proprietà. Ma c'è una, Marco, le paghi sempre tu, me. Se tu c'hai casa di proprietà devi pagare l'IMU. Vabbè, adesso l'IMU non la paghi più, ma prima c'era l'IMU. Devi fare un sacco di roba, fai luce, gas, cosa del genere, tutto un cazzo da te, che cosa fai? Intrattene lì. Come ripeto, lei ci mette lo stipendio e io ci metto la casa. È chiaro, no? Una mano lava l'altra. Tutti e due lavorano il... E poi sei l'ovvio, ma non trovi gente così, non ti preoccupare tu. Ci vedrai che ti trovo qualche ragazza che ti fotte, te lo dico io, e non ci mancherà molto, mi. Ti do massimo 5 anni a te, e tu vedrai che tu mi fu tutto, sposato e più con qualche figlio, ne grattati. No, no, guarda, voglio diventare Finocchio io. Allora chiamo Falcone e ti fa dare la casa sua, e ci guadagni. Sì, guarda, quando lo trovo da Ocean, se sono in macchina lo faccio entrare al baracchino della macchina. Ah, io già c'è la baracchina, non ti preoccupare dove. Ci vuole l'antenna e il consenso magari di qualcuno, se no a entrare già no, magari entrami per dire. Perché se tutti i costumi sono cambiati, quindi non ci finiscono, lo faccio incazzare. Sì, i tempi sono cambiati. Vabbè, ma adesso non può pescare nessuno perché siamo tutti grandi, ragazzini nuovi non ce n'è. Lui mi ha detto da Ocean che ha sorso i primi tempi, l'ha messa l'antenna, però gli hanno fatto casino e la sorella non ha più voluto che modulasse. Poi che l'abbia tolta non sono sicuro, non lo so. Ma io non ci credo per niente che a Sosso gli hanno fatto così, anche perché la verità ci piace a Sosso, proprio io non c'era, prima di tutto, erano tutti spariti. Quindi, a un certo punto, magari sarà il condominio che gli avrà detto cosa, non potrebbe andare alla baracchina. Capito? Boh, non lo so Antone, io ti riporto quello che mi ha detto lui, che gli hanno fatto qualche scherzo, qualche cosa ha detto lui, mi hanno fatto. Poi in dettaglio non sono entrato. Sì, vabbè, comunque sì, quando vuoi la sorella e con il genere gli tocca a lui, no? La casa dove abitava la madre, già lo sai, sì. Io gli tocca a lui quella, tocca. Quindi tu andavi a abitare dove di lì. Magari ci avevamo tutto lei, quello che è, a meno che non ci sia qualcuno appresso. E quindi sono sicuro che questa sorella non vuole il baracchino di Iacanica, te lo dico io. Ma lui da solo come fa a stare? Lui non credo, non sa cucinare, cioè come fa da solo? La roba chi gliela lava? Se fosse in compagnia della sorella posso capire. Per me sto dicendo che lui sa fare tutto, frega, perché era già, era meno sveglia, faceva la spesa. E quindi le cose le capisce, fregatele. E magari vogliono fare tutto, cioè come succede parecchie volte, quando c'è una persona in famiglia che è così, che si piglia la pensione, vogliono fare tutto il tutore per mangiarsi i soldi suoi, hai capito? E quindi, cioè, vedere una persona che vive in casa sua, per dire, ma perfetta, gli tocchi la casa di carica. L'autore si stabilisce lì e poi magari conosce qualcuno che lo sfrutta, dà anche fastidio, al limite si mette, gli mettono qualche tutore, qualcosa del genere. E penso quei tipi che sono, è molto pericoloso, capito, succede così. Sì, è vero, potrebbe trovare qualcuno che si approfitta di lui e che lo spenna, come si suol dire. Io la sorella non la conosco, non so quanti anni abbia, non lo so, la verità. Avevo visto Diego, ma tutti morti erano, anche Diego era morto. La verità non lo so, comunque sia, lui rispetta la casa, capito? Quindi rispetta la casa ogni figlio, quindi sono sicuro di quello che ti sto dicendo. Per me lui andava a abitare a Caniga, dove abitava prima, si pensava magari a fare quello che è, per i fatti suoi. Non penso che faccia tutore la sorella o il fratello, perlomeno, perché rispetta lui di diritto, capito? Quindi, non lo so, penso che c'è qualcosa di... cioè non può andare in istituto lui, c'ha ragione lui, perché non è che lui ragiona, il discorso è questo. E quindi la cosa cambia, cioè le leggi che sono adesso, per me ti sto dicendo che lui torna di nuovo dove la prima. Magari il consultore, quello che è tutto amministrativo, che gli passeranno magari la pensione, a cosa ti serve questo? Figli avevano capito, a meno che non sia tutto legale, non lo so, questo non lo so dire. Per me è come penso io. Ma quindi non l'hanno venduta la casa di Canica, no? No, quella è va di pizza, cioè quella dovrebbe essere di Paolo dovrebbe essere, perché gli altri figli ce l'hanno tutti, manca solo la casa a lui. Famiglia Minchiolis. La casa per me è la sua, anche perché non è abitata da nessuno, hai capito? Quindi per me quella lì è casa sua, perché della madre tocca a lui. Penso che la madre dove vai, se ne va in istituto, non esiste, capito? Che fratello si piglia la casa dell'altra persona, a parte che a un certo punto si deve trattare il fratello finché in gamba. Allora, quindi ci sarà soltanto un tutore, quello che è, che non lo so, ma questo non posso dire, per come penso io, non so se mi sbaglio, per me quella casa è la sua, quella di dove abitava la madre, e penso ci troverà non molto presto, perché la sorella non è che può, usare il fratello un sacco di anni, 10, 20 anni, 30 anni, che a un certo punto ti rompe i cosi, mi mando da sé, è una persona del genere, hai capito? A meno che non lo metta all'istituto e sta tutto, a parte tutto chiuso, sulla San Camillo, tutto chiuso, quindi a meno che non trasferisca la Rizzetto a Falcone, perché tutto è trasferito alla Rizzetto adesso. Ah sì, e il San Camillo cosa c'è adesso? Non lo so, comunque le visite mediche, tutto trasferito a Rizzetto, capito? Nell'ultimo padiglione, quindi a un certo punto stanno tenendo San Camillo, quindi cioè, delle persone che ci sono di lì, dove li metti, potevi portare a casa, in famiglia, o se no... se sono altro sufficiente naturalmente, se non sono altro sufficiente dove ce li metti, figli e ammazzi, non lo so. Si vedrà, se va a Canica gli piacciono subito l'antenna. Se va a Canica gli ha regalato anch'io l'antenna, cioè, regalato anche per chi, no, quello non ho problemi, non mi ha fatto nulla. ci fa compagnia, cose del genere, passa la vecchiaia. Eia. Quando mi ricordo, quando saliva a Santa Maria con le buste, quando scendeva con la spezia, con le buste sull'altro, una volta l'ho visto in macchina, dal finestrino in azzicchivio, oh paraculo! Lui si gira e guarda, anche quando la macchina era lontana a 100 metri lui stava sempre guardando. Sì, già lo so, già me lo ricordo. Comunque lui, vabbè, la macchina mi sembra piaciuta, la verità. Però è stato un bel periodo che non entrava, cioè quando l'ultima volta che è entrato lui sembrava, come se fosse il primo giorno, capito? Non andava a dire a nessuno, diceva ciao, chi sei, da dove stiamo volando, non faceva più la, come prima, capito quello che voglio dire. Tutto ma quello ho sentito io, quindi è cambiato parecchio a un certo punto. Evidentemente qualcosa è successo. Ehi, sarà stanco ormai di agire come agiva prima. Può darsi pure che sia un passatempo davvero per la sua vecchiaia, no, tra virgolette. Adesso quanti anni dovrebbe avere? Caspita, se nell'84 ne aveva 29, mi pare, cacchio, adesso ne ha un bel di più. Tranquillo, ne aveva almeno 65-60 di anni, non ti preoccupare, ormai è anziano. Però era di fisico, cazzo, giovanile, bello è quello. Secondo l'età che c'aveva, diciamo, il fisico giovanile, sembrava che fossero ragazzo, come cosa sembrava. Non c'era una piega, niente, neanche una ruga c'aveva quel periodo lì. Aspetta un attimino, Ricordati, guarda il telefono. E poi mi dice se non c'ho ragione. Perché per l'età che c'aveva lui, manco una ruga c'aveva, te lo sto dicendo io. Diciamo una forza allucinante. Figurati, si buttava appresso, cazzo, due, tre cose di spesa, almeno di 10-20 kg al giorno. Figurati, si avviava la mercatone allora. Adesso il mercatone non c'è più, c'era la specie di cosa adesso, quindi adesso deve fare più due o tre. Aveva la forza dell'asino. E se lo tomba a fare. Aspetta un attimo, Che qua sogno. Allora Antonello, io quando sono entrato nell'84 mi aveva detto che aveva sui, mi pare, o 29 o 30 anni. Facciamo conto che ne avesse 29. Dall'84 oggi sono passati altri 29 anni, quindi in teoria lui dovrebbe avere 58 anni. Se invece ne aveva 30, ne ha 59 adesso. Probabile, perché io ne ho 49, quindi 10 anni più di me, cioè, sì, esatto. Caspita, quanti anni sono passati, Antonè? Dall'84 in cui sono entrato sono passati 29 anni, è una vita. Pensavo che cazzo, potevamo approfittare da prima, visto, E invece niente, qualsiasi ragazza che entrava, tutti mi hanno fregata, cazzo, tutti i tecnici erano, tutti i coso, tutti i furbi, e io mi sono attaccato al tram, te lo immagini, cazzo, l'unico imbecille ero io, che non ha approfittato a fare nulla con quelle donne della baracchina. Vabbè, io ero piccolo, ma non me ne fregava nulla di quella del baracchino, la verità. E per il tanto c'erano 10 persone appresso, la solita storia mia. Quindi, caspita, 29 anni fa c'era Pomponio, e adesso dopo 29 anni c'è ancora Pomponio. Questo toccando sotto, non sa che muoio stanotte, con quelle palle grosse. Toccatemi, toccati le palle, che t'ho pinnacciato. Siamo usciti. E dopo un po' mamma aveva bisogno di entrare in bagno, no? Dovevamo andare dal cinese, che ha il bagno funzionante, no? È sempre stato funzionante. Stavamo per arrivare e ho detto, ma potrebbe darsi anche che non funziona il bagno, Marco ha detto entra, il bagno non funzionava, non sapeva come fare. Per fortuna poi siamo andati da un altro cinese che aveva il bagno funzionante, ed è andato. Quando stavo cercando quel macchino che stavo scritto facendo arrivare io, la cinese, sto cercando gli appigli giustini. Purtroppo non è così facile, se no sarebbe stato già qua quell'apparecchio, ma lo sto mangiando le ginocchia, mi sto mangiando la retta. Perché i cinesi non capiscono una mazza, Antonè. Io chiedo se veramente sei interessato, e quando dico interessato vuol dire soldi alla mano, chiedo a UW9 Golf Yankee Yankee, gli chiedo dove cazzo l'ha comprato, l'indirizzo esatto, e te lo comunico. Naturalmente devi pagare con carta di credito, devi avere la carta di credito. Se no me la sono fatta da poco. Ok, lui me lo dovrebbe dire, se no c'è, perché io consiglio di comprarlo dalla casa madre, perché a comprarlo da altri potrebbe essere una truffa, cioè che ne so io se questi siti dall'altra parte del mondo sono affidabili, non vorrei che poi lo paghi e poi scompaiono tutti, capito? C'è problema per quello. Mi interessa averlo a casa, quello, in un modo o all'altro. Tu sei sicuro di averlo a casa, non no. Cioè, passaggi, sottifugi e cose del genere. Quindi preferisco pagarlo come si deve, al limite la metà dell'anticipo, per dire il resto a fine quando è arrivato. A parte devo dirmi anche due di quelle, di quegli apparecchi di metodo, tutti quelli portatili. E quindi ci vorrebbe ancora di più, sono l'altro. Comunque sia, adesso si vede di trovare una persona adatta per questa cosa qua, capito? In modo da averla a casa. Poi speriamo bene. Purtroppo quelli vogliono, non funziona così, Antonio, bisogna pagare in contanti con la carta di credito, tutto in una volta, non accettano i razionamenti. Renditi conto che arriva dalla Cina, dall'altra parte del mondo, quindi loro non lo manderebbero mai pagando metà o peggio in contrassegno, non esiste. Mi mandano un cantone, ho capito, il discorso è quello. Se mi mandano un cantone io mi arrabbio, vado dove ho fatto l'ordine, non ci metto molto a pigliarlo e lasciarlo in terra. E come fai a risalire? Quello è il pericolo. Purtroppo questo apparato stranamente non ha avuto diffusione. Primo perché la gente non si fida di un apparato come quello, e poi anche la difficile reperibilità. Prima ce l'avevo il sito principale, poi questo sito principale non ho capito dove è finito, perché non riesco a trovarlo bene. Ci sono dei siti che lo vendono, ma sono siti ambigui, sempre in Cina, praticamente sono degli altri che lo comprano dalla casa madre e poi lo rivendono. Un altro problema da non trascurare è quello della dogana, perché se l'apparato ti costa 350 euro, un apparecchio grande, un pacco grande, viene bloccato sicuramente dalla dogana e ti metteranno l'IVA al 22% o 21%, quanto la vogliono fare. Quindi addirittura viene a costare ancora di più, ancora di più. Adesso vediamo di chiedere a quell'amico mio di Olbia come si può fare, vediamo un pochettino. E conta anche che ha avuto scarsa diffusione, perché non è un apparecchio amatoriale, bensì nautico. Quindi la gente dice, ma non c'è il VFO, non c'è il VFO, ma alla fine anche io c'ho i tastini qua di sintonia, sul microfono, premo up, down, ed ecco che è come quell'apparecchio lì, la stessa cosa. Ma cosa c'entra quello, scusi, quello del Kenwood, anche 80, quelli che vogliono, e il 27 non si è mai andato. Sono tutte scarte, insomma, che cazzo c'entra quello, non c'entra proprio niente, la modifica è da fare dopo, sia nei watt sia in altre cose, non c'entra proprio niente quello, perché ho guardato normalmente che faceva le frequenze dell'elevatoriale e basta, capito? Poi sono stati tutti modificati, che c'entra quello? Infatti non hai capito. Io ti sto parlando del VFO, la gente vuole il rotellone, se non c'è il rotellone non va bene. Invece quell'apparato c'ha i due tastini di sintonia, la gente i tastini di sintonia non ne vuole, vuole il VFO, il rotellone. Però cambia nulla quello, sono tutte facce di colori, non cambia niente, perché se tu guardi tutti gli apparecchi che sono usciti adesso, sono tutti con la lockdown, non c'è più il rotellone, dove lo vedi il rotellone ormai? Ecco, io per esempio ho detto che il microfono ha la sintonia dei tasti qua, up e down, quindi non cambia niente avere il rotellone, il VFO oppure i tasti. Vabbè, il VFO è più bello perché giri, la frequenza sale così, ma se ne può fare a meno. Comunque è bello, qui ha il GPS incorporato, secondo me puoi anche trasmettere i dati, lo sai, del GPS. E infatti si può trasmettere, c'è anche scritto. A meno che non si riesca ad abbindolare quel radiatore a venderlo, perché lui ne sta ordinando un bel di roba dalla Cina, si è ordinato il portatile HF cinese, lo sai. Va dai 40 metri ai 15 metri, mi sembra, ed è portatile, costa abbastanza poco, è della UKIPS ed è un QRP, cioè 5 watt di potenza. Già va bene, visto? Comunque sia, oramai battaglia dei cinesi, ho battuto lì. Tanto di là, da qualche altro posto, cosa cambia? Anzi, ci risparmiamo pure, sono un altro. Sono tutti mancati o integri, come dice tutto la Cina, bimba mia, la bimba americana, cioè, lo sai anche tu da me. Quindi, ho preso le magliette, adesso che vengono, ho fatto come anche pezzi della Ferrari, la Cina. Ti sei perso? No, no. Sì, è vero, tutta la vaccina arriva. Vabbè, comunque, se si trova è buono. C'ha 100 watt, 100 watt in SSB, quindi buono. Buono, buono. Sono 40 watt in AM, 100 watt in banda laterale. Che poi si può modificare, anche perché tu lo sai, prima il tempo tu... Grazie a un'altra cosa, usciva l'AM in potenza 40 watt, quindi si può anche modificare. Qui non è sta bene così, come originale, dopodiché ora me lo faccio modificare nella persona giusta. Anche questo sì, infatti si può modificare, solo che è inutile, scalla troppo, poi diventa una stufa, non mi va, questo sta bene originale. Beh, l'importante può essere così come che c'è, ma il vicino può anche mangiare, non cambia molto, no? Il mio ha mettato via il vicino, ha mettato di tutto, è diventato, se tu lo senti, guarda quando diventa Stefano. Non sembrava così a un film, la verità. Esce una bomba, esce, che mi sono tanta. Cappa, chi ce l'hai detto? Stefano ce l'ha. E Stefano chi? C'è tutto ce l'ha. L'ho preso da lui, ma da chi io. Lui ogni settimana entra a Sassari e quando entra la casa sua lo senti. Io sento l'altro giorno con Sanni più tre. Che tu dicendo delle amicizie se lo mangia come quando vuole. Oh, io non l'ho mai sentito Stefano, lo sai, non lo sento da allora, dagli anni 90. Boh, e la zona di modulazione qual è? Carica, dove che sia. Ah, come era una volta. Esatto. Io ho regalato a Tanaio la facevo io in Sassari Picchio, sempre stato lì, si funziona benissimo, ma boh, ce l'ha più, c'avevo io qui dove abitavo, figurati, qui ce l'ha ancora adesso, sono più di 25 anni che c'è quella tubo 2001, c'è tubo 2001, quella autovariale, la bomba è questa, con l'antenna. Figurati, una bomba proprio, sono contento. Si può modificare quelle antenne comunque, se le sai usare, naturalmente, se le sai usare nel senso li metti in grasso, cosa del genere, tieni nuove, nuove, nuove, se li metti in cosa, metti così, boh, si è fregato. Bene, Antone, io quasi quasi spengo perché stanotte ho dormito, anzi non ho dormito, sono andato alle 5:30 a dormire, o meglio, alle 5:30 ho preso sonno. E sono spazzato in radio, da, io chiudo, ci sentiamo alle prossime. Buonasera, va. Scrivi tu da Gianni, visto? C'è un caffone, sì. Oh, buonasera Gianni, all'anima, tutta la sera in radio siamo, entri in sala adesso. Beh, io sono andato su 5 su 10, non immaginavo che eravate qua, me l'hanno detto solo che eravate lì, perché era per favore un amico e mi ha detto guarda che sono là sul 3, sul 3, boh. Non me lo sarei mai immaginato, non ho avuto il coso di fare la spazzolata, quindi ho pensato che non ci fosse nessuno. Oggi dalle 5:30 di sera sul 3 eravamo, prima c'era Giulio, poi è entrato Claudio, poi un po' di gente è entrata, a turno sono entrate varie persone, adesso siamo rimasti io e Pomponio e basta. Anche Fabrizio è entrato. Papa. Già, meglio così, là. Meglio che si espanda la frequenza. Allora, fammi pensare, quindi Giulio, Claudio, poi che cacchio è entrato? È entrato Gianni Capri 2, è entrato Roberto Quadrato, è entrato Fabrizio, poi che cacchio è entrato? Aspetta, vabbè, grosso modo queste persone, dai. Ecco, avanti. Buonasera Gianni, buonasera a tutti, Barracuda. Mamma mia, è entrato Maria Friusi, ciao Antonello, il Barrado, sei bacio in radio però. Io sto soffrendo un apparato, schifo, fa vero come modulazione. Sei bacio in radio, mamma mia, mi sembra che cazzo... Tu sei tutta maletta qua. Sì, no, mi hai attaccato, guarda che è meglio. Aspetta, Mi sta anche tutto. Come? È tutto caduto, è provvisorio. Si è tuffato. Oia, oia. Gianni, questo buon pugno mi sta facendo disperare. A me, sono a te. Gianni, già ci sei, sì. Ehi, scusa un attimo, sto cercando lo spinotto del vecchio che non riesco a trovare, non può essere laggiù. Ehi, va bene, va bene. Vabbè, allora vado via alle 11 quando ceno, dai. Quanto manca? 20 minuti. Faccio compagnia a Pomponi, ancora 20 minuti. Prendi i vestiti perché mi sono a muro? No, te ne faccio passare 5 io. Chi ti sovramodula? Nessuno sta sovramodulando. Ma lo so, sempre tornato io, un'altra volta. Quindi mi stavano già le convulsioni. Perdonami Antone, quando hai mollato la portante l'ho fatto io. Giura, giuro in giurello, se non sei tu che ti sei secca l'uccello. No, ma era un ruttino, appena hai mollato mi stavo uscendo, ho fatto così, le convulsioni, chi credevi che fosse? L'amico tuo. No, amico tuo è, che c'è che a me, non amico mio, amico tuo è. Quindi... Cazzo le commozioni, oi oi. Va bene, ma comunque bella serata oggi. Io di solito quando esco in macchina col baracchino non c'è mai nessuno e quindi me lo sbatto dietro, no? Invece stasera ne è valsa la pena, notta. quando ho chiamato io non rispondeva nessuno sul 5. Ho fatto chiamare mamma con la voce appunto femminile e ho risposto subito Giulio, capito? Invece stamattina sono uscito, cazzo, sono andato un po' di fronte, mi sono parcheggiato la macchina del fratello e è uscita quella ragazza con gli occhi celesti. Dimmi Antonino, ti servo una birra? E tu grazie, sì, mi serve. Carina quella ragazza, carina, non è molto alta però già va bene, per te va bene. Beh, che lo dici? Già mia ragazza ha preso, non ti preoccupare. Per quello, dici, ma che mia amica, parecchi anche, in cerca di maschietti. Vediamo se Gianni, se Gianni ha risolto, dai Gianni. Vabbè. Ho risolto. Ok, dai. Antonè, questa antenna è una maledizione. Finalmente si erano abbassate le stazionarie di nuovo, no? 1,2, 1,3 sul 40 e 1,5 sull'1. Ha piovuto di nuovo e sono di nuovo schizzate a 2. Sono tutta la mia antenna, molto c'è con l'antenna, cioè sono buttata a volta. Mettete una di queste che ho io. Dove guardo la mezza? Cambia. Allora Antonè, adesso mi sono salassato, non ci sono soldi. E poi ti avevo detto che mi devo prendere il Magnum Omega Force. Cosa devi chiamare? Magnum Omega Force S45 HP. Quindi sei a posto per il momento. Quindi che sono? Attenzione, cosa vuol dire che io? Andiamo al centro sociale, ti faccio dare 100 euro per la luce e così ti compri l'antenna nuova. C'è uno che sta mettendo i soldi nel cassetto delle poste, chissà che passi pure da lui. E vai. Non ti ricordi quello che tanto tempo fa aveva fatto una visita e metteva i soldi nelle cassette delle poste dei poveri, 400 euro, 500 euro a testa. Già me lo ricordo, vari anni fa era successo. Ma speriamo che passi qualcuno qua, così svuoto anche le altre cassette della posta. Ma passano solo dai poveri, dei ricconi da mettere non ci passano. Igua, riccone proprio, ricchione casomai. Ricchione, in amoledano, ricchione. Ehi, va bene. Come vedono il portone, io dico che si spaventano e ci danno 1.000 euro a testa. Appagato. Ma è stato onesto, poverino, dai. Ha aiutato la gente che aveva bisogno, deve essere lui non era ricco, e ha capito che aveva bisogno. Eia, è stato molto generoso, Io se vincessi, invece non do niente a nessuno, me li porto nella tomba. Boh, così è un faro, Poi dico così, poi chissà come reagisco. Mamma mia, quando penso che c'è qualcuno che ha vinto 70 milioni di euro su Prenalotto, 140 miliardi di lire, ciu, mi ci compro la Sardegna. Io Marco non potrei mai vincere perché non ci gioco. Io giocavo un paio d'anni fa, poi non ho più giocato perché è inutile. Però ricordati che chi ha vinto, anche lui diceva che era inutile giocare. Vabbè, tutti dicono così, ma se non giochi non vinci. Mio padre per me diceva, io con i soldi in tasca ho sempre vinto. Ok, ma chissà, anche una vincita, anche un 5 più 1 mi accontento, anche un 5 mi accontento, basta che sia qualcosa. Avanti Antonetta. C'è un culo con mio fratello. Gioca che te vinci. 250, 300, a volte 100 euro, fate dal numero 140 in su, come da te vinci, e vince sempre. Vabbè, quelle sono vincite così, Antonio, io sto parlando di vincite vere, tipo anche 50.000, 100.000, e anche di più, insomma. Una cosa che ti cambia la vita, in poche parole. Bello, lui ha fatto un lombo e un terno, ha giocato, sapete, 1 euro e basta, quindi ne ha vinto, mi sembra, 50-60 euro. Su finito c'è il gioco 100-200 euro. Lui il colore, io no, dipende dalla persona, capito? Ce n'è una che ha portato al mio portone, forse che prende gratte in vici, 100 euro, 50 euro, sempre in vici. Indacciala, così non vince più. Poi c'è una cosa, se ti dice che sono belle le piante, il giorno dopo si affrusciano. Infatti le nascondo io, la metto in terrazzo. Ah, cos'è? Un pindaccio praticamente da solo si porta fortuna, ma gli altri porta sfortuna. Beh, Marco, io sarà un caso, quello che vuoi. Per 2 volte ci ha detto che erano belle le piante, per 2 volte sono affogliate. C'avevo una stella di Natale che ero riuscito a mantenere. Avevo fatto tutte le foglie nuove, bella folta, tutta bella. Fatto come l'hai fatto? Perché è difficile tenerle quelle stelle di Natale. Dopo Natale muoiono, no? Beh, fatto sta che... Aspetta, come hai fatto a tenerle? Io le avevo messo del fertilizzante, le avevo di quello liquido, eccetera, eccetera, e ero riuscito a tenerla bene. Tutta bella folta, hanno cominciato a cadere le foglie, cadevano una a una. Giorno per giorno mia moglie raccoglieva un tappeto di foglie, perché era diventata bella folta. Alla fine è rimasto solo il ramo centrale, basta. E ogni foglia della pianta che cadeva erano 100 euro di vincita per quello lì. E ce la racconta, dicevi, ho vinto 50 euro, ho vinto 100 euro, che assumono la cantina io che dici, no, uno ne compro, uno, ogni tanto ne compro uno e vinco sempre. Che culo, vabbè, a me, vabbè, i gratta e vinci non è roba che prendo perché costano 5 euro l'uno. Io giocavo al Superenalotto perché giocavi in pari 1 euro e lo giocavo un paio di volte a settimana, tutto lì. C'è tutte le ruote? No, non ci sono ruote nel Superenalotto, è come la tombola, tu metti 6 numeri. Se escono tutti e 6 hai fatto tombola e vinci grosso, vinci milioni di euro. Vedi quanto me ne intendo. Non ci ho mai giocato in queste cose, non ci credo. Tanto la fortuna non ce l'ho io di vincere nulla. Io potrei solo perdersi soldi e buttare. Ehi, però anche 1 euro a settimana, 2 euro a settimana va bene. E non ne compilo una volta. E i numeri, per me i numeri, sai cosa facevo? Li estraevo con la tombola, no, prendevo l'acciacchetto e i numeri che uscivano me li giocavo, ovviamente non ho mai vinto niente. Poi per risparmiare tempo prendevo le schedine già precompilate, no, da 1 euro, ho detto se va va, e infatti non è andata mai. Visto, guarda Riccardo, come me, uguale, invece mio fratello dice tutti i giorni, guarda un po', 5 euro, 10 euro, 100 euro. Mi ha dato lui, è posseduto al diavolo, quindi finché scappa va bene, va bene. Se invece mette la beffa, cosa? Al figlio, va bene, cari miei, io vi lascio. Me la mamma, ci andiamo domani. Statemi bene, buonanotte a tutti e due. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Avanti Marco. Bene, ciao Antone, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Io stavo aspettando un amico che entrasse, ma non si sente. A domani Marco, sì sì sì. Già entrato amico tu, già entrato per compare Gianni. Se non muore prima, perché oggi è stato un problema di cosa, di... infezione di febbre, deve essere la febbre è sabato sera, bisogna andare a coso, palate. No, non mi hai capito di chi sto parlando. Gianluca, ci sei? Parlo di donne mie, non parlo di altro. nostro, io sto parlando di Gianluca il produttore, si eravamo al telefono poco fa e ha detto che sarebbe entrato, ma non lo sento. Sta collaborando, fregate, già entra da tanto, cioè se sei lui, io salire qua sopra, andare in sede, togliere, cioè lasciare la macchina di qui e poi trovare la macchina da qui e andare direttamente giù a Papà Bressi, come si è fatto. Allora, ci sentiamo domani, ci sentiamo bene, ciao, buonanotte a tutti e due. Pensavo la lasciassero lì, c'è la compagnia portuale lì a Polottone, se ho visto che c'erano le macchine parcheggiate, pensavo che le lasciassero lì. No, lascia la macchina qua, che c'è l'ufficio qua, e poi scende giù direttamente da qua a casa sua, come è sempre fatto. Quando sei tu su per fare i lavori, perlomeno, da quanto lo conosco io, a meno che non abbia cambiato sede. Questo non lo so, comunque sia l'antenna c'è ancora qua su, quindi vuol dire che la sede è qua su. E evidentemente quando è uscito deve fare il cambio coso e poi entrerà, interessa, non ti preoccupare. Allora Marco, fatemi vedere tutti e due. Ciao Marco, ciao Gianni, ci sentiamo, fatevi bene, buonanotte e buon tutto. Buonanotte Ali, no, non sta lavorando stasera, eravamo al telefono poco fa, non stava lavorando. Avanti Marco Condor. Va bene, di nuovo buonanotte. Bella modulata stasera, infatti io ho pensato a te anche, ho detto ma se Gianni esce da lavoro dovrebbe sentirci, invece è capitato che non hai girato la rotella, vabbè, non era prevedibile, di solito siamo il 5 e il 10, invece siamo andati sul 3 perché era il più pulito oggi, capito? Io ho guardato quei canali ma non ce l'ho fatta, quindi ho acceso la radio. E vabbè, là, è andata così oggi. In macchina ho portato il Superstar 3009. Lo Smitter è strano perché i segnali alti li segna giusti alla fine, corrisponde a questo, però i segnali bassi sono bassi veramente, capito? Uno che ti arriva, che so, Santiago 4 è come se fosse Santiago 8, mi ha un po' di baravi. Come mai? Ma è toccato? No, è di serie così. È tirchio. Ci sarebbe una modifica che hanno fatto vedere su internet che serve ad ammorbidire la molla o una cosa del genere, non la molla proprio, cambiare un componente e lo smitter diventa molto più reattivo, capito? E vabbè, ma non è giusto, è inutile che tu gamuffi e poi non è giusto lo stesso, sì che fosse una cosa naturale, va bene, no? Se tu lo camuffi così non è, il segnale non è perfetto. No, a quanto pare serve solo per, non per aumentare il segnale, serve proprio per renderlo più fluido, capito? Più reattivo. Poi chi lo sa, io non mi fiderei di fare una cosa del genere. Io ho una mania, che i baracchini devono restare originali, non mi piace manometterli. Infatti, quello che dico io non li apro nemmeno, fate un gotto. No, aspetta, se per essere pignoli, io quando ho preso il Superstar è arrivato, lo smitter era parecchio tirchio, troppo tirchio, anche i segnali forti arrivavano bassi. Allora ho scoperchiato e ho regolato il trimmer dello smitter. Adesso diciamo che per i segnali alti è passabile, dai, è giusto, in poche parole. Ho trovato lo schema dell'apparato e indicava qual era il trimmer, mi pare fosse RV1. Ma io non mi fido, ma c'hai i cacciavecchiati induttivi? No, negativo, io lo alzo di una frazione e poi controllo, se non va bene alzo ancora di una frazione e controllo. Faccio avvitanti induttibili, volevo prendere al GPC, quelli economici, quelli da 5,90 bianchi. Che scelgo? Non usare mai di quei cacciavitti là, perché rovinano prima di tutto l'affitto del coso. E poi secondo luogo, una volta che tu lo regoli, poi se ne può ritornare alla regolazione precedente. Ma sarà, io l'ho regolato, per adesso tiene, non... Poi se cacciavitassi avanti e indietro sempre posso capire, ma... Li volevo prendere, allora io su internet ho trovato dal sito della GBC questi 10 cacciavitti di tutte le misure, sono bianchi, 5,90 euro. Bisogna vedere però se questi cacciavitti li trovi anche alla GBC in via Caro Felice, perché certe volte le offerte in internet non corrispondono alle offerte che hanno qua. Li trovo, li ho comprati io. Non c'è da sbagliare, ho comprati via alla GBC io. E mi pare parte più o meno così, solo che si spezzano, sono molto delicati. Sono delicati. E da molto li hai comprati? Sì, da molto anni. No, questa... Mamma mia, che sciobendolo! No, non finisce più. No, adesso l'ho smesso, dai. Sì, se li trovo li prendo. Naturalmente vanno usati piano piano, con cautela, perché sono fragili e l'ho già letto. Ma per regolare uno smitter una volta nella vita si possono usare. Addirittura quando era arrivato 2 anni fa l'Albrecht 5008, lo smitter era ancora più tirchio di prima. Praticamente io ero a Piazzale Segni con il baracchino, con quell'Albrecht, tu arrivavi Santiago 5, allucinante, l'ho regolato e ti ho messo a 9 più. Ma tu devi regolare più o meno con un apparecchio che sai che c'è lo smitter che va bene. Lo regoli, guardi come arriva quello, poi lo regoli con l'altro. Con quello era un problema già, perché aveva, era cristalli liquidi, aveva 1, 3, 5 e 9, passava da 5 a 9, era un problema tra l'altro. Allora cosa ho fatto? Ho ascoltato un segnale Santiago 9, con baracchino semplice, no, Santiago 9, poi ho attaccato subito quello e l'ho regolato a Santiago 9, di più non posso fare, però non è un granché. Capito, è uno smitter approssimativo, se ti chiedono controlli precisi non li puoi dare. Sì, no, non servono a nulla quelli digitali, non mi piacciono, mi piacciono più quelli normali, quelli digitali sono falsi. Quello soprattutto già, quello era più banale proprio, invece nel modello precedente, nel modello successivo al mio, hanno fatto lo smitter con tutti i numeri, 1, 3, 5, 7, 9 e poi non mi ricordo, occupava tutte le gradazioni, diciamo. Quello ancora può essere passabile. Vabbè, comunque precisi non ce ne sono, cioè, tranne quelli dei decametrici, diciamo anche di quelli professionali che sono perfetti, gli altri sono un po' così. Sai che credevo che rispetto al baracchino questo fosse molto più generoso, invece mi sono reso conto che il baracchino, il Superfat 3009 per segnare altri è uguale a questo. Tu arrivi 9,20 con questo, se metto il Superstar 3009 arrivi 9,20 uguale. Per i bassi no, per i bassi i segnali è un problema. Vabbè, quello c'ha un ricevitore superiore. Però a parte il ricevitore, è la precisione dello smitter quella che mi interessava. Io mi fido più di questo, certamente. Mi fido più di questo che di altri. è diciamo il più serio, tra virgolette. Poi sicuramente ci saranno smitter molto più affidabili, per esempio le apparecchiature Rode Schwarz devono essere mostruose come precisione di ricezione e di tutto, anche di segnale. Non le conosco. Allora, Rode e Schwarz produce apparecchiature professionali che usava anche l'Escopost. Un ricevitore Rode Schwarz da 0 a 3000 MHz per dire, un ricevitore senza accessori costa 40.000 euro, non so se mi spiego. E non è roba da me. No, ma infatti è roba folle, a parte la roba che è di una precisione assoluta, cioè tu ricevi proprio esclusivamente quello che c'è in quel canale, è roba fuori dai normali costi, dai, è roba folle proprio. E comunque le scoposte usava mi pare Rode Schwarz, più tante altre, insomma, società, come le vuoi chiamare, che hanno bisogno di strumenti di precisione. Ma lo fanno Radio CB? No, assolutamente, fanno ricevitori e mi pare anche trasmettitori di alto livello, però sono prezzi folli, 40.000 euro un ricevitore. Poi se vedi gli accessori sono a botte di migliaia di euro, roba da matti, nessuno se le può permettere. Cioè, se le può permettere organi statali o parastatali, ecco. E beh, quelli perché per noi sono da noi. Per esempio, l'ICR 9000, non so se l'hai mai sentito, della ICOM, era il ricevitore per eccellenza, mostruoso, il più fantastico che c'era all'epoca, ma costava solo, mi pare, quanto poteva essere, 10 milioni di lire solo, questo è 40.000 euro, quindi 80 milioni di lire, pensa. Immagino, sono in pochi che se lo possono permettere sicuramente. Poi c'è il tre passa, esaltata che vuole il più in tutto il top, allora posso anche capirlo. Eia, i ricconi, sai quelli sfondati proprio, se lo prendo, cioè, voglio un ricevitore buono. Diciamo che quelli servono proprio ad analizzare il segnale profondamente, ti dicono tutto sul segnale, la roba fuori anche dell'immaginario. Sono di colore bianco, lo sai, colore un bianco ghiaccio, sono molto suggestivi anche l'aspetto, si vede che non è roba da cipito. Vabbè, come gli apparecchi marini, dai. Sì, una cosa del genere, sono molto particolari d'aspetto, mi pare anche unici nel loro aspetto. E Marco, c'è l'acqua? Negativo. Adesso, insomma, fra poco. Andava. Cava. E vabbè, comunque, quelli saranno le Rolls Royce degli apparecchi radioamatoriali. Sì, vabbè, ripeto, è eccessiva la cosa, dai. Basta un normale ICOM, IAESU, un apparecchio di punta, non c'è bisogno di arrivare a quegli eccessi, quelle sono follie veramente. Follie oppure, vabbè, non le so interpretare già, è troppo fuori dal normale quella roba lì. Non è roba bannuida. No, noi siamo esseri umani, quella è roba da eletti, da semidei. Uia, lo sai che in realtà non ho manco voglia di mangiare, sono suonato, sarò suonato dal baracchino. Anche a mamma l'ha detto, quando niente, quando troppo, cazzo, dalle 5:30 di sera, 6, 7, 8, 9, 10, fra un po' arriviamo alle 11:30, sono 6 ore. Avete fatto un turno di lavoro? Sì, che poi io non sono abituato a parlare tanto. Infatti sono un po' stanco e non ho fame, ripeto, io mi mangerei anche una cosina frugale, una mozzarella col sale, ecco, e ho cenato. Io ceno così la sera, poi faccio una caprese, due pomodori, una mozzarella, un po' di origano, un po' di sale e via, olio. Ottima la caprese, a me piace parecchio, infatti è la cosa più leggera, più sana, la mangio anche se non ho voglia quella. Anche la pasta primavera mi piace. Pasta primavera? Non ce l'ho presente, ma è col pomodoro fresco? Pomodoro fresco e basilico. Ah, ecco sì, buona anche quella, pomodoro non deve mancare mai. Adesso vediamo cosa... mi sa che mi mangio davvero una mozzarella e boh, qualche cosina leggera, là. In questi giorni ho sofferto di bruciore di stomaco, quindi ci devo stare... devo andarci un po' cauto. In questi giorni, non pensavo che fosse solo un giorno io. A me non ti sei fatto vedere. No, già, non c'è bisogno, è a periodi. Posso stare mesi senza averne e poi mi viene, vengono alcuni giorni bruciore e poi passa. Sai perché già, io abuso di Coca-Cola, abuso di Nutella, abuso di schifezze varie, mangio tutto quello che si può mangiare, tranne qualche eccezione. Non mi do un freno, capito? Mangio quello che c'è, anche cose pesanti. E poi ho il vizio di mangiare la roba piccante, mi piace molto il peperoncino e il pepe. Anche io quello lì. Quando è ieri abbiamo mangiato delle pennette ai funghi, una cosa particolare, no? E io ci ho messo pepe, del pepe, abbastanza pepe diciamo, era bello, bello aromatico. Il pepe fa male, io non li uso, solo peperoncino, sia in polvere che a pizze. Perché fa male? Perché praticamente si attacca nelle parti delle arterie. Sì, già, non è che arriva nelle arterie, è nello stomaco. Forse contiene un principio attivo un po' così così. Ho messo un misto pepe, c'era pepe nero, pepe bianco, tutto misto, già pronto. E ne ho messo anche abbastanza, infatti aveva, sai quel profumo proprio del pepe, quella la spezia tipica. Eia. Solo nella fenile ho messo io il pepe. Anch'io, ottima. Poi a me più ricca me la dai la fenile, più sono contento. Se è con le cipolle è buono, se poi è con salsicce e cipolle non ne parliamo. Poi pepe a non finire, ciu ciu. Sì, posso il pepe e il peperoncino, che è un vaso di lassatore. Allora, la cosa più pesante che io avessi mangiato un giorno era disgustosa a lungo andare. Ho trovato delle... come definirle? Erano come dei riccioli di carne di cotenna di maiale con lo strutto. Erano in bustine, tipo patatine, no, croccanti. Praticamente aveva il sapore di maiale, ma in mezzo c'era lo strutto, sentivi proprio il grasso dello strutto. Dopo pochi bocconi ti disgustava, ti veniva quasi... Bah. Perché succede così? Dove sono tutti questi odori e cosa? Alla fine ti nauseano. Era nauseante. Buono, però ne potevi mangiare due o tre pezzettini, dopodiché dovevi lasciar stare. Vabbè Marco, io mi sto per addormentare, sono un bel stanco. Ci sentiamo, ti auguro una buona notte e una buona carica quando la fai, dai. Ciao, anche gli ascoltoni, doppio dunque reti esecutivo. Va bene Gianni, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. E buon lavoro per domani. Ok, alle prossime. Buona notte che te dà. Buona.